Ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani Parenzo, sappiate che ho appena mollato l'amorosa per colpa anche vostra, perché mi diceva che la trattavo male e io usavo esattamente i modi che avete voi di rapportarvi con gli ascoltatori. Ma a me non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo, perché adesso sapete cosa faccio? Ascolto la zanzara. Ma tu lo sai che siamo diventati la causa di separazioni tra persone, gente che non... no? Beh, non stento a crederlo. Ragazzi, sulla storia delle statue mi ero perso questo intervento, direi sublime, lo definirei sublime, del mitico abate, il marchese Fulvio Abate. Ah, com'è? Senti che dice, parla di vulva demoniaca, meraviglioso. Questa subcultura che costringe a censurare le statue è una subcultura, come posso dire, che ritiene la vulva demoniaca, che ritiene la figura della nudità femminile demoniaca. Iniziamo molto alti oggi. Anche quando dice che non dico il Nobel a YouPorn, certo bisognerebbe darlo in realtà il Nobel, premio Nobel a YouPorn, che premio Nobel si può dare a YouPorn? Premio Nobel della... Per la pace nel mondo? Beh sì, beh, sì, per la pace universale. Sì, bravo, pace del mondo. La pace per del la letteratura mondo. No. Cioè più YouPorn, meno imam. Più YouPorn, meno bombe. Più YouPorn, meno turbanti. È sinonimo di meno asciugamani, sé, eh? Meno asciugamani in testa. Più YouPorn, meno... no, meno turbanti. Le forze laiche di questo paese promuovere una giornata mondiale del turismo, della gioia, dell'eros e del piacere. Non dico di chiedere che il premio Nobel anzi sia dato a YouPorn, però dobbiamo rispondere con la cultura del piacere. Ma io invece vado oltre e dico il premio Nobel per la pace a YouPorn, perché effettivamente YouPorn è sinonimo di pace. In questi giorni è, non dico sublime perché l'ho già detto, ma è straordinario ascoltare padre Livio Fanzaga da Radio Maria. Non avendo un punto di riferimento, perché in fondo i figli delle coppie omosessuali sono figli di nessuno. C'è poco da fare, non puoi eliminare la natura dalla vita. Sono figli di nessuno, cioè, mica sono nato da questo io. Chi è mio padre? Chi è mia madre? Alla fin fine ciò che significa che lo Stato fondamentalmente decide se e come i cittadini possono esprimere se stessi. Lo Stato ti dice come devi parlare. Questa è la dittatura di Satana, del principe di questo mondo. L'omosessualità è una tendenza non innocua. L'omosessualità, dice, non è soltanto una scelta da condannare o un disagio da alleviare, è qualcosa di molto peggio, perché è tutt'altro che una tendenza innocua. Bene, carissimi, queste cose qui non le sentite nelle trasmissioni televisive, tanto dicono... Il loro ragionamento è sempre questo. Tanto ormai noi vogliamo la RAI, poi anche quelli di Mediaset alla fin fine sono, sa, fra si sa che certe parentele il diavolo ha due corna, no? Quindi poi tutti i mass media, tutti a dire. Possiamo dire una cosa, caro Parenzo, con tutto il rispetto, anche con una piccola preghierina, se vuole, una preghierina laica, per quello che mi riguarda, ovviamente, al signor Fanzaga, che il diavolo non esiste. Che il signor diavolo non esiste. Non esiste il diavolo, vogliamo dire molto chiaro. Questo io non lo so. No, il diavolo non esiste, perché tu credi nel diavolo? Cioè, no, tu credi nell'esistenza del diavolo? Personalmente non credo all'esistenza del maligno o del satano. Penso che ci siano persone cattive che non sono indemoniate, però non me ne frega niente. Il diavolo non c'entra niente. Però se questo signor Fanzaga, Don Livazza, ritiene che esista il diavolo, io non vedo perché fagli cambiare opinione, cioè non mi interessa. Posso dire che è una follia o no? Se lui è felice di sapere che c'è il diavolo e che lo vuol combattere, amico mio. Poi se la piglia addirittura con Obama. Liberale. Senti, Obama, se la piglia addirittura con Obama. Fanzaga contro Obama, cazzo. Il lascito di Obama, adesso i giornali parlano del lascito di Obama, sono tutti debiti. Il lascito di Obama, matrimoni omosessuali. Medio Oriente in fiamme, eccetera eccetera, quello è il suo lascito, se lo tenga pure, se lo porti da di là. Radio Maria contro Obama, si porti nell'aldilà il matrimonio gay, vabbè. Poi non ha capito una mazza, perché lì è la Corte Costituzionale che ha deciso, la Corte Suprema, vabbè. Non ha capito una mazza, dai Fanzaga, su, fai tanto l'intellettuale, non sai un cazzo, dai. Ancora non c'è un nome, di colui che ha deciso di scatolare i monumenti, tirate fuori un nome, tirate fuori un nome. Però ragazzi, voglio farvi ascoltare un personaggio straordinario, che è la figlia del Marolla Torre. È andata dalla D'Urso, naturalmente, la signora Giulia La Torre. Oh, meno male. Ovviamente è andata dalla D'Urso, dicendo che è omosessuale, che è lesbica. E questo già è un colpo al cuore per tutti quelli che sono grandi sostenitori dei Marò, e nello stesso tempo sono contro per la mascolinità dei Marò. Sì, per la mascolinità dei Marò. Beh, un po' sì, dai, un po' sì. Indirettamente un colpo. Senti, perché? Però, quando la Giulia La Torre parla del padre che tra l'altro pare che non si frequentino, non si vedono mai, eccetera eccetera. Pensi che ti starà guardando papà in questo momento? Sì. E cosa penserà in questo momento papà? Non lo so, se sta bestemmiando o qualcos'altro. Vabbè, bestemmiare è una cosa bruttissima, sicuramente. No, vabbè, non lo starà facendo. Pure bestemmiatore il signor Marò. No, ma lo diceva per scherzo, come dire. Ma perché devi sempre diminuire l'effetto di questa roba? Perché la ragazza era evidente che non è che diceva bestemmiando. Devi sempre, ma certo, starà bestemmiando, no, è una cosa spontanea, è un'espressione, come dire, starà imprecando, ma non che impreca. Senti, ma perché non fai il mediatore culturale? No, perché tu contestualizzo. No, tu mi dai, io butto una cosa lì e tu la ammorbidisci. Sì, la moderi. Ma no, ma quello è un bestemmiatore, è chiaro che è un bestemmiatore. Dire, no, hai bestemmiato, mi hai detto una cosa, no? Ma mica il Marò che bestemmia, perché non è possibile che bestemmi in Italia, è pieno di bestemmiatori. Che cazzo ma no, dici? Non bestemmia il Marò. Ma va, dai, soldato, figurati se bestemmia. Ma no, sì, ce ne sono pochi dei soldati che bestemmiano. Dai, su, dai. Istituzioni, divisa. Poi la D'Urso la intervistava come se fosse una malata. Ma tuo padre cosa sta pensando in questo momento? Straordinario, eh? I parenti gli hanno detto, sei così bella che non puoi essere lesbica. Perché effettivamente, diciamo, l'immagine che noi abbiamo della donna lesbica è quella di una donna bruttina, no? Una donna bruttina. Beh, effettivamente io conosco molte più donne lesbiche brutte che belle, però... Sei così bella, ma perché questa... Ma perché cosa, scusa? Cioè, a me viene da ridere. Cioè, non ho capito cosa ti dicono. Sei così bella e quindi non è giusto che tu sia omosessuale. Quindi se io fossi brutta, devo essere etero, potrei essere etero. Quindi se una è bella, deve essere etero. Se una è brutta, può essere lesbica, cioè, o gay, cioè. Altra cosa assurda che vi getto così in pasto... sono gli intellettuali a favore dei cinghiali e contro l'uccisione dei cinghiali. Ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa, però c'è una voce interessante, quella di Dacia Maraini, passata improvvisamente dall'anti-berlusconismo all'animalismo. Il passo è stato abbastanza breve e anche repentino, soprattutto per la scomparsa di Berlusconi, diciamo, dal novero dei nemici. Adesso i nemici sono i mangiatori di carne, quelli che vogliono abbattere i cinghiali perché non ne possono più, delle rotture di coglioni che portano, degli incidenti che provocano, delle terre distrutte, eccetera eccetera. Dacia Maraini. Penso che noi stiamo stravolgendo la natura e poi cerchiamo di rimediare attraverso delle azioni violente, perché questa è un'azione violenta, non si fa un massacro di animali come questo, a me mi sembra una cosa orribile. Ormai ci sono tante forme tecnologiche e anche con attenzione biologica, nel senso che si mette un animale a cacciare l'altro. Si mette un animale, perché è bello invece un animale che caccia l'altro, cioè invece questo è bello, un animale che caccia l'altro è bello, invece l'uccisione col fucile no, ma guarda che incredibile. Cioè questi vogliono tornare, cioè questi vogliono tornare a un'epoca in cui tutti mangiavano tutti, capito? Cioè un'epoca barbarica, cioè oggi ci sono i fucili per ammazzare i cinghiali, i fucili, cazzo, non gli altri animali che mangiano gli altri animali, ma di che parliamo, dai? Il traffico. La Zanzara. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Allora, caro David, potrebbe esserci una sorpresa al Family Day. Potrebbe esserci una sorpresa al Family Day. Perché una sorpresa? Perché ci potrebbe essere un personaggio che potrebbe irrompere, che potrebbe entrare, sì, a provocare casino, a provocare un po' di emozioni. Io le chiamo emozioni, per altri sono delle rotture di coglioni. Perché potrebbe presentarsi al Family Day, in teoria sono tutti precisi, no, a favore della famiglia, per la famiglia uomo-donna, pensano che gli omosessuali magari non lo dicono esplicitamente, siano tutti un po' malati, sono contro le adozioni. Potrebbe presentarsi una signora che si chiama Efe Ball. La signora Efe Ball. Efe? Buonasera a tutti, che carino che sei, come mi presenti bene. Comunque ho già fatto tutto ciò che dovevo fare, ho fatto un terremoto sia in Parlamento che nel mondo. No, aspetta, fermala, rispondi alle domande senza dire quello che hai fatto o quello che non hai fatto. Adesso vuoi fare sempre tutto e tu. Fermala, andrai al Family Day o no? Non lo sai ancora. 90% sì, no, io vorrei, solo che io sono una persona sola, e tra queste 200-300 mila persone che probabilmente ci saranno lì quel giorno là, non so perché fanno in... Cioè hai paura di qualcosa, dici? Hai paura? Ma non ho mai avuto paura, sono famiglie, dai, con dell'orchestra dove c'erano più di 300 poliziotti in scala, perciò non ho mai avuto paura di niente. Vabbè, allora? Non è che mi possono uccidere. Ma io sono solo, cioè anche che vado lì tra tutta questa gente che urleranno Family Day, mentre magari mi guarderanno le chiappe, cosa posso fare da sola? Cioè io vorrei vai là a testimoniare a favore invece delle unioni gay, a favore dell'adozione, contro i bigotti, contro l'ipocrisia. Cioè, arrestano, ma dopo due minuti che arrestano. Perché ti arrestano? Allora, se fosse a Milano, che mi conoscono anche tutti i poliziotti, i carabinieri, quante te ne sei fatte di poliziotti? Guarda che mi piacciono molto poliziotti e lo capisco. Quelli che vengono, io gli dico: se vieni in divisa ti faccio lo sconto. E invece no, non vengono in divisa, non vengono mai. Sì, qualche volta faccio anche gratis. No, ma in divisa l'hai fatto. Ma sì. No, mi piace, sì, certo. L'hai fatto con poliziotti in divisa. Loro sono uomini. Poliziotti sono bellissimi, quelli che vengono dal sud, soprattutto. Scusa, ma oggi, sei perfetta per il Family Day, guarda. Sei perfetta per il Family Day perché tu contribuisci. Io che ho fatto più di 10.000 scopate, sono perfetta per il Family Day. Ma certo, assolutamente. Devo mettere una scultura. Fermali. Penso di avere anche tanta dignità, devo dire. Sì, assolutamente. Però sei perfetta perché secondo me sei una che risolve i problemi delle famiglie. Diciamo la verità. Cioè, senza di te le famiglie, molte famiglie sarebbero già divise, rotte, distrutte, o no? Tante come me tante famiglie sarebbero state rovinate. Sì, oh, perché uomini, ecco, dunque io siccome sono... hanno sempre qualche testosterone che sale, brava, e la moglie che non riesce sempre a rispondere con bravissima il testosterone, se non ci fossero persone come me che lavorano, tanti matrimoni sarebbero finiti. Allora, perfetto, allora guarda, ho trovato questo slogan per te. Dunque tu, sì, al 90% sei sabato a Family Day, caro Parenzo. Io direi, ecco, che tu ti, sì, devi presentare, ti devi presentare con un cartello, come vuoi, non so come vuoi, eccetera, così io sono il vostro paladino, perché sono colei o colui, perché tu sei un trans, e dunque diciamo, come ti chiami tu? Femmina? Sì, femmina, diciamo, sei lei. No, normalmente mi dico, mi danno del femmina, sì, femmina, sì, o il seno, sono quella che sono, nonostante il pisello, sono quella che sono quella che, attenzione, sono quella che, il vostro simbolo, il vostro paladino, perché sono quella che conserva l'integrità della famiglia, cioè senza di me molte famiglie sarebbero già finite, morte. Questo è il grande slogan. Dai, vai Salvatore, vai tranquillo, nessuno ti fa niente. Vieni con me. Sabato purtroppo, cioè purtroppo no, per fortuna sono con mia figlia, per cui mi pare un po' complicato. Guarda che anche te, anche mi sembra che io sono più anche di te, mi sa, ho piuttosto qualcuno in più. No, insomma, anche a te possiamo aiutarci probabilmente. Vabbè, no, quello che c'entra. Addirittura. No, ma da quel punto di vista non ho bisogno di aiuti. Ma facciamo un esempio. Anche tu sei un uomo, scusami. Perché non ammetti? Dai, Cruciani. Scusami. Ma non hai qualche volta voglia di trasgredire? Ma sì, ma ho sempre voglia di fermarla. Sappiamo tutti che tu hai questa trasgressione di avere, di toccare le cose. Ferma lì. Ma adesso non mi interessa questo parlare di te, di trasgressione. Ma non è che vuole rimorchiare questa signora. Che ti conoscono o piuttosto non ti conoscono. Efe, ti voglio fare delle domande importanti. Non fare digressioni, dai. Allora, Family Day, io sono l'emblema della famiglia perché sono quella che salva la famiglia. Nei giorni scorsi hai detto che sei andata a letto, vabbè, quello è una cosa normale per te perché lo fai di professione, con diversi politici che sono rappresentanti del Family Day. Quanti sono questi qua? Saranno 6, 7, 8. 8 politici addirittura, politici. Politici, sì, sì, quelli che ci sono ogni giorno, magari certe volte li vediamo anche in televisione. Sì, addirittura, sì, quelli che vanno in televisione. Cruciani, soltanto per l'anno 2008 mi è arrivato 425 milioni da pagare all'Equitalia. Non Ho fatto questi soldi soltanto dagli operai, dai taxisti, piuttosto, per carità, vengono anche loro. Però qualche tante volte vengono anche politici, grandi industriali, avvocati, notai. Grandi industriali, è importante dirlo, grandi industriali, in questa radio. Industriali, guardi, tanti, no, ma ci sono figure, due ti tre che quando tutto tu il dici giorno il loro nome sanno ovunque parte, anche in Alaska, anche in Tasmania, che si tratta dell'Italia, quindi grandi industriali, sì. Comunque grandi industriali, anche rappresentanti di Confindustria. Siccome io voglio vivere a lungo, tutti questi nomi non li posso assolutamente svelare, ma viva l'Italia, ma te li segni uno per uno, ce l'hai segnati uno per uno questi ma nomi? Ma guarda, devo dire la verità, qualche volta, per esempio, io mi sveglio molto presto, accendo il televisore, zac, ne vedo uno davanti di me, faccio alzare mia mamma e dico, tu ce l'hai un'agendina? Ce l'hai un'agendina? Ma non ho bisogno. Io dico, mamma, ti ricordi che ti avevo parlato di uno che mi pagava 500 euro soltanto per cambiare il copriletto perché lui voleva uno nuovo? Pure. E dice, sì amore, mi ricordo, sì, è questo. Dico, sì, guarda, questo qua, unica persona in ma cui perché io ti svegli con tua madre? Mia mamma. Io non ho con mia madre. c'è da ridere. Ma tua madre, ti guarda? Dopo 10.000 uomini, sì, la mia famiglia è mia mamma che ho capito, ma tua madre, anni, i miei cani che vengono dal canile. Ma tua madre, quando tu fai le tue cose, quando tu fai il tuo mestiere, quando ti fai qualcuno per mestiere, ne vado al mio appartamento, un altro appartamento per lavorare. Tua madre non fa nulla, non vede, non fa nulla, non sente nulla. Vabbè, senti, ho 38 anni, ma quanti... invece di essere un non so, invece di vendere la droga, piuttosto spacciare la droga, invece non lo so, rubare o essere un delinquente, io ho scelto di essere una prostituta. Allora, un'altra cosa ti devo chiedere, Efe, andrai all'Isola dei Famosi o no? 90% sì, 99% sì. Ah, sì, andrai all'Isola dei Famosi, dai. Per la prima volta ci sarà una persona che non piangerà all'Isola dei Famosi, cercherà in ogni modo di non mangiare, ma di fottere, di trombare, di fare sesso, perché io adoro fare sesso. Beh, non so se sia per la prima volta in Isola dei Famosi ne vedrete una bellissima trans, anche senza trucco, che sarà sempre positiva, che sarà sempre allegra, sì, e cercherei di fare tutto ciò tranne che mangiare insetti, per carità, questo no. Quello no, insetti non ne mangiamo, però insetti sesso no, a volontà. Banane, würstel, tutto ciò mangio. Sesso anche a volontà all'isola dei famosi. Saranno contenti i signori dell'isola. Io porterò con me anche qualche preservativo, cioè qualche, un centinaio di preservativi. Un camion. Non si sa mai. Un camion devo portarle. Non si sa mai. In un pacchetto sono 144 dei Pamitex, io comporterò un pacchetto così, io dico, non si sa mai. Tanto non c'è bisogno del crema, perché ma c'è vuoi vincere l'acqua, tutto del ciò. Crema. Le vuoi vincere? Guarda, io ci metterò tutta, cioè vuoi vincere, vuoi voglio vincere. Far vedere la gente che anche una prostituta ce la può fare. E dunque vuoi vincere, vai lì per vincere. No, per non ho detto che voglio vincere. Però per cambiare tutta vita, per, vuoi andare lì per cambiare vita. Per cambiare la vita, per far vedere la gente che anche e una dunque, persona come me per può non fare. Dunque per non fare più la prostituta, diciamo. Sì, io vorrei veramente, ai miei 38 anni, visto che sono veramente molto conosciuta, voi anche stanca? Mi amate. No, non sono stanca, 38 anni per un uomo è l'età perfetta, anzi, per un uomo, i miei clienti, io sono un uomo geneticamente, sì, mai sì, nascondo, no, certo. Scusa, ma e ti hanno messo... non ho mai avuto problemi con la mia sessualità, perché? Cioè, ti hanno messo nel contrattino, ti hanno messo nel contrattino che non devi, che non devi no, scoprire? No, ancora, io domani magari dovrei vedere questo contratto, ma non credo che c'è un... Che ne un, so, non devi mostrare l'uccello, no, no, no. Ma allora, non devo mostrare l'uccello, magari qualche volta si vede, perché mi fanno arrampicare da un palo all'altro e esce, mi dispiace. Per forza, non è che posso controllare. Non puoi nascondere. Poi, basta che non ci sia una che dice non devi assolutamente fare sesso, non credo. Non credo. Perché non credo. Probabilmente non lo sarà un bel ragazzo carino. Lo farai. Vabbè, pompino, vabbè, adesso abbiamo chiuso in bellezza alle 19, ci sentiamo alle 19:15. Grazie Efe, 800 24 00 24. Radio 24 Day. Nuovo ospite di Radio Day ai nostri microfoni, il notaio, il dottor Angelo Busani. Soddisfa una curiosità, perché la legge di stabilità introduce una novità appunto piuttosto insolita, la possibilità di una casa in leasing. Che cosa significa e soprattutto qual è la convenienza e per chi? Allora, la casa in leasing è una cosa in effetti strana, perché il leasing è nato come un contratto strumentale alle esigenze dell'impresa, quindi anche se non era vietato o impossibile stipulare leasing abitativi fino a ieri, nessuno li ha mai stipulati perché francamente non conveniva o non serviva a niente. Il leasing non è entrato con contratti di finanziamento, si è voluto creare un canale alternativo al finanziamento bancario con il contratto di leasing, dotandolo di certe caratteristiche, di certi pregi, senza i quali nessuno stipulerebbe il contratto di leasing abitativo. Un accesso più semplice? Certo, specialmente in termini di tassazione. Un acquirente che compra la casa in leasing e che avesse diritto all'agevolazione di prima casa ha un'aliquota di registro ridotta. L'aliquota di registro della prima casa normale è il 2%, quella ridotta è dell'1,5%. In secondo luogo c'è una importante detrazione IRPEF. Se stipulo un mutuo per comprare la prima casa, la detrazione IRPEF è 19% degli interessi passivi fino a 4.000 euro. In sostanza detraggo ben di più di quanto detraggo in un mutuo in tema di interessi passivi. Era l'ultimo appuntamento con Radio Day, speciale Telefisco, da Lara Vecchio. Una cordiale buona serata. In collaborazione con Audi, all'avanguardia della tecnica. La Zanzara. È dalle 9 che lavoro, sono le 11:30, esco da 2 ore di convegno di banca, manco un'ora a casa, sono stanco morto, ma ora mi schiaccio un bel podcast della Zanzara e godo! Caro Parenzo, vorrei introdurre un argomento nuovo, un argomento sì, di sì, cui abbiamo parlato poche volte. Non è Febball, non è il Family Day, non è il sesso, anche se poi riparleremo di sesso a lungo in questa puntata. È una puntata un po' speciale, un po' particolare, una storia incredibile da raccontare intorno alle 19:40-19:45. Però ti faccio ascoltare dalla puntata di Porta a Porta dell'altro giorno la madre del signor Becher. Sai chi è il signor Becher? Il signor Becher è colui che insieme alla signorina Levato, Martina Levato, hanno praticamente rovinato la vita ad un po' di persone, buttando a queste persone dell'acido in faccia. I due dell'acido. Lasciamo perdere le cose processuali, come no, andrà, hanno già una condanna a 14 anni, ci sono altri processi in corso, eccetera. Lui si dice manipolato da lei e viceversa, eccetera. Ma eccetera. Hanno ricevuto un cachet per andare lì o no? No, chi? Quale? Ma chi? Ma di chi parli? Non sai niente, di chi parli? Nulla. Hanno ricevuto un cachet. Ma chi? Ma sono in galera, ma di che parli? Ah, quindi non sono stati intervistati. Ma la madre di lui, l'incoglionito. Ah, la madre ha ricevuto un cachet o no? Ma non lo so, ma non lo so. Questo è importante, ma però, perché ti incaldi, scaldi così. Quello è importante. Ma mi scaldo che pensi che siano andati pubblico, a porta a porta, pubblico. Quelli stanno in galera. Ma no, quelli in galera. Vabbè, non sapere un cazzo, ma fino a questo punto. A parte che la signora Franca Leosini, come tu mi insegni, va in galera a intervistare grandi assassini. Non infierisco. La signora Ravasi, che noi una volta già intervistammo, che crede che il... Io di Ravasi conosco un filosofo, Ravasi. Sì, ma questa si chiama Ravasi, la madre di Becher, uno dei due dell'acido, si chiama Ravasi. Questa signora Ravasi ha visto anche lei quei filmati incredibili diffusi dal tribunale, filmati che mostrano che cosa, per chi non lo sapesse, è lui che incide una gamba di lei, no? Che schifo, terribile. No, con una specie di, no, con un taglierino, con un coltello, col sangue che esce. Vabbè, però non è che questo prova qualcosa. Comunque, hanno visto questo. Dopodiché, filmati che lui che strozza una gallina, e c'è già un'associazione animalista che ha denunciato i due per maltrattamento degli animali, come se fosse questo il problema. Questi potrebbero beccarsi non so quanti anni. Figurati che cosa può fare un'associazione animalista dei miei stivali che denuncia questi per maltrattamento degli animali perché quello tirava il collo a una gallina. Vabbè. E poi c'era anche una scena incredibile in cui lui dava da bere del piscio a lei. Questa era la sostanza, no? Ma l'hanno visto tutti questi filmati su web. Tu non vedi niente? Io non guardo le porcherie. Ma, insomma, ma che c'entra le porcherie? Sono cose processuali. Processuali, ma alcune cose mi fanno schifo. Posso dire che mi fanno schifo? Ma d'accordo, ti faranno guardi schifo. Guardi questo, guardi il piscio, nessuno ti obbliga. Ma non è quello. Dice, dai, non guardi niente. Ma guarda il piscio, divertiti. Che devi vabbè, fare? Ma. Che è un bel ambiente, appunto, c'ha ragione. Ambiente di maiali. Ma quello, ha ragione. Quello, d'accordo. I due, vuol dire, la procura ha mostrato in aula questi video. Vabbè, la procura, ma non è che uno è obbligato a dirli su internet. A me fa schifo, che devo fare? Beh, ma guardali per capire anche la psicologia ma di queste persone. Ma che me ne frega, no? Se non mi interessa per... Sì, se dovessi fare qualcosa, guarderei. Vabbè, infatti stai facendo qui alla zanzara. La madre di Becher si chiama Ravasi, abbiamo detto. E senti cosa pensa di quei video del figlio. E quando sono entrata in carcere questa mattina ho avuto un moto di disgusto nei confronti di mio figlio. E la prima cosa che gli ho detto che schifo. Se le responsabilità di mio figlio saranno responsabilità di porcherie, perché è uno sporcaccione, e mi vergogno a dirlo, ma è la verità e una madre non può non dirlo, pagherà per queste cose. No, veramente non pagherà per queste cose, pagherà per altre cose, perché adesso, per carità, sicuramente servirà a tratteggiare la psicologia di un imputato, però non è che se uno incide la pelle di un'altra persona consenziente, se uno beve urina, a parte che noi li conosciamo i bevitori di piscio, diciamo, erano però, per altri motivi, altri problemi, diciamo. Oppure se uno strozza una gallina, necessariamente poi brucia la faccia a una persona, no, cioè non è poi così, non c'è un rapporto di causa-effetto con queste cose qua. Io conosco tanta gente perversa che non ammazza nessuno, no? O che non ferisce nessuno, per cui, vabbè, comunque, la madre, posso capire che sia rimasta colpita da queste cose, no? Scoprire questo uomo sessualmente così deviato, per me è stato un incubo, è stato una scoperta allucinante. Io mi sono chiesta dove posso aver sbagliato io. Vabbè, amica mia, però la cosa grave non è quella, io lo dico con affetto nei confronti della signora Ravasi, non è quella che le perversioni sessuali, l'incisione, l'urina, cioè la cosa principale è quello che hanno fatto ad altre persone. Quello non c'è dubbio. Ma è quello però il punto. Lei dice, lei mi sembra che neghi, diciamo su quello dice vediamo il processo, io quello... Ha visto delle altre cose, magari era pronta ad assolvere il figlio. No, ma sull'urina, scusa, sull'urina, io conosco un sacco di gente che fa schifo, queste cose. Ma io voglio conosco dire conosco un sacco schifo. Di gente. Ho capito, ma se la madre venisse a saperlo, probabilmente se la madre direbbe le stesse cose. Io direi la stessa cosa da genitore. Ma no? Ho capito, ma non mi pare quella la cosa. Sì, certo, non mi pare quella. Sì, va bene. Ma quella si riferisce. Se lo dici in privato e te lo dice, dice, vabbè, ma che schifo, io non lo faccio, punto e basta. Comunque, aspetta un attimo. A un certo punto ha detto che. Senti la risposta di lui, di Becher, senti. Allora io mi sono arrabbiata perché gli ho detto tu non hai diritto di dire che tu per questo non puoi essere giudicato, perché tu ormai sei una persona pubblica. E lui mi ha risposto: vedi mamma, è pieno di ragazzi che fanno delle cose come me, anche forse peggio di me. E io gli ho detto: sì, ma non mi interessa, perché sei tu quello che sei sotto processo adesso, per cui tutto quello che fai tu comunque viene amplificato. Vabbè ragazzi, 800 24 00 24, questa era la madre di Boucher. Dove andiamo? Andiamo a Giovanni da Roma, vai Giovanni. Ma che sta a fare questo? Giovanni? Sì, ecco, ciao. Che stai facendo? Sono in attesa di un colloquio. Di lavoro? Di lavoro. Con chi? In una farmacia. In una farmacia. Fantastico. Sei disoccupato per il momento? Sì. E che vuoi fare in farmacia? Farmacista, che vuol fare? No, io sono dottore in farmacia. Ah, sei dottore in farmacia? E che deve fare in farmacia uno? Farmacista è il proprietario della farmacia. Ma diciamo, no, fa le farmacie comunali. L'impiegato in una farmacia, giusto Giovanni? Sì. Ma quando è questo colloquio? Alle 7:30, alle 8, a che ora? Sì, tra poco alle 8. Sì. Tanto stavi ascoltando La Zanzara, che è Cosa Buona Giusta, Nostro Dovere, fonte di salvezza. Non dirlo a farmacista però. No, avrei voluto fare il giornalista veramente. Ma però, adesso lasciamo perdere. Le cose sono cambiate. Va bene, comunque, sì, volevamo dire... Facci assistere al colloquio, no, amico mio, la Giovanni, voce. Che cosa volevi dire? Sei tu che hai chiamato, amico mio. Ah, giusto, sì, infatti. No, a proposito di Efeballa, sì. Che mi candido io ad accompagnarla. Sì, amico, tu già sei candidato a entrare in farmacia, quante cose vuoi fare? Fare il colloquio per entrare in una farmacia per trovare un lavoro, ti candidi per andare al Family Day con Efeball. Ma stiamo raccogliendo adesioni, chi vuole accompagnare, fare da scorta a Efeball, al Family Day, le dice ho paura, sono da sola, chissà no, cosa mi può succedere. Però ragazzi, fatevi sotto, chiamatemi e faremo la scorta per Efeball. Dopo le sentinelle in piedi. Certo, le sentinelle di Efe, come no? No, ti posso dire un'ultima cosa. Sì, non hai detto un cazzo fino adesso, a parte il fatto che vuoi andare, ti candidi per andare al Family Day. Beh, con Efeball. Sì, no. Dimmi. No, perché io sono, guarda, sinceramente sono. Scusa, perché se mi passi il farmacista, io ti raccomando non so al farmacista. Se è una buona idea, caro. Però ti assicuro, candidato. Se mi passi il farmacista. No, guarda, io vorrei raccomandarmi con te. Ma no, ma non c'è niente da cui raccomandare, amico mio, ognuno deve fare. Tu sei farmacista, che cazzo vuoi fare qui alla radio? Dai, su, Giovanni, passami sto farmacista che ti raccomando. Sì, dai. Certo, no, ma pensi comunque di avere delle qualità radiofoniche? Pensi di essere bravo? No, la radiofonica no, ma sicuramente giornalistica. Sì. Ma che giornalista? Hai fatto il farmacista, amico mio, ma non è che puoi fare tutto nella vita. Mi sono occupato di comunicazione. Di comunicazione. All'AIFA. Vabbè, sono senti, allora, oltre ad andare a Family all'AIFA, Day con certo. Efeball, cosa vuoi fare? Sì. Niente. Ennio da Roma, ciao Giovanni, mi passi il coso o no? Mi passi il farmacista o no? Sono qua. Passamelo un attimo, sto farmacista. Sono qui. Sei qui che... Beh, lui dire? Giustamente è farmacista. Dici farmacista, sei tu lui, il farmacista. Non quello del colloquio. Cioè, giustamente è lui il sei farmacista. Tu il farmacista. Sì. Sei tu il farmacista? Sì. No, sì. Cruciani vorrebbe parlare, ma te lo sconsiglio come raccomandazione, col tuo futuro datore di lavoro, che nel caso... No, non lo vedo ancora. Non ancora non quello ci che sei, puoi fare al massimo è fare il colloquio in viva voce. Senti, cioè, ma tu lo vendi lì il Viagra o il Cialis in farmacia? Quanto ne vendi? Ma tanto, è ovvio, no? Tantissimo. Più il Cialis o più Viagra? Viagra. Più Viagra, più il blu, più la pillola blu. Sì, è meno invasivo. Come... Vabbè, comunque, lasciamo stare questo. No, che lasciamo stare? Decido io, lasciamo stare o no? Cioè, no, il Viagra ha un'azione più rapida. Sì, no, al contrario, dicono. Comunque, vabbè, Giovanni, ti saluto. Ennio da Roma. Giovanni, ciao, amico mio, vai. Ennio da Roma, dai. Ennio. Dimmi, Ennio. Sì, buonasera, Cruciani. Volevo dire a proposito di cinghiali, che diciamo, si può praticare anche la caccia al cinghiale in maniera più nobile, cioè come faccio io che vado a caccia con l'arco da 10 anni. Cioè tu cacci cinghiali con l'arco? Sì. Però scusi, io non faccio molta differenza, fate, sì certo, non da solo. Però io non faccio molta differenza tra la caccia al cinghiale con l'arco oppure col fucile, cioè non mi pare un... Sempre il cinghiale si ammazza, amico mio, eh. Certo, voglio dire, però chiaramente è un colpo per uno, voglio dire, se sbagli è più facile sbagliare con l'arco che non col sì, non c'è dubbio, per carità, è più, diciamo, c'è un, la sfida è maggiore, no? Cioè, certo, ci sono più pericoli, certo. Vabbè, allora che vuoi dire oltre ad averci raccontato? Poi volevo dire l'altro stesso che praticamente molte province sì, intorno anche al centro hanno decretato la, la caccia al cinghiale con, attraver- mediante un pagamento di tanto al chilo per quello che viene poi cacciato e in questo caso anche vivi con le gabbie. Perché praticamente stanno rovinando tutte le culture e non puoi immaginare quanti ce ne sono di cinghiali. Lo so, ma sappiamo tutto, ma c'è, come abbiamo sentito, qualcuno che dice che bisogna prendere altri animali per ucciderli e che comunque si fa la strage degli animali. Beh, sono passati dall'antiberlusconismo, almeno quelli che ho sentito io, all'animalismo. Che vuoi fare? Un attimo. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. La Zanzara. Caro Parenzo, come lo vedi questo vento? Questo vento che arriva dall'Europa, questo vento nuovo che arriva dall'Europa, dall'Europa cosiddetta civile, civilizzata. Cose che tu hai sempre considerato fasciste, cose che tu hai sempre considerato di destra, cose che tu hai sempre considerato al limite del razzismo. La Svezia. Togli pure la civilissima Svezia, la civilissima Svezia. L'Europa negli anni 30 mi fai finire, era no, civile, che sono in trance, La Svezia caccerà, espellerà, che è meglio, va, 80.000 profughi arrivati nel 2015 semplicemente perché non hanno diritto di restare. Non solamente quelli che dicevano di avere problemi politici e invece poi non ce li hanno, ma anche quelli arrivati qui semplicemente perché dicono vogliamo stare qui perché è meglio che vivere, che ne so, in Niger. Eh no, amico mio, non si può, perché altrimenti sarebbe la fine dell'Europa. Via con voli charter. Via con voli charter. In Olanda, treni per rimandare in Turchia i migranti arrivati via mare in Grecia. Quelli che non hanno diritto, cioè quelli che non sono, anche su profughi. Quelli, anche su quelli si potrebbe discutere fino all'infinito. La differenza è tutta lì. Sì, ma ho capito, ma tanto quelli vanno non via. Profughi, da noi non la vanno... Svezia fa una cosa, a mio avviso, da noi, orrida. I rimpatri non ci sono mai stati, ce ne sono stati pochissimi. Questi con i voli charter li mandano tu via. Tu prendi come modello la Svezia, che invece decide di impacchettare tutti indipendentemente dal loro status. No, ti sbagli. Hanno respinto la richiesta d'asilo, perché si può anche respingere la richiesta d'asilo. Non è detto che se uno arriva qua ha diritto a restare qua anche se dice scappo dalla guerra. No, amico mio, controlliamo se scappi dalla guerra o no. Ne sono arrivati 163.000, gli altri a casa. Ma non capisco perché questa cosa qua viene considerata. Se la dice Salvini, la dice Prosperine, il fascismo. No, la diceva fascismo, Prosperine, guarda. Fascismo, eccetera. Beh, la fa la Svezia, la fa la Svezia. Tutti zitti. No, zitti non mi pare proprio per niente, invece, che siano zitti. Non mi pare che tutti dicono ha fatto bene la Svezia. Vabbè, Carlo non da risulta, Latina, eh? Vai. Carlo da Latina. Lo dico io intanto. Carlo da Latina. Non c'è. Con tutto Sergio il rispetto. Da... Lo dico io, eh. Sì, qual tu, è il problema? Con tutto il rispetto, perché la mia opinione vale meno di un cazzone che sta in Parlamento. Non credo proprio. No, a meno autorevolezza della Commissione Europea e di altre cose. Meno poi, autorevolezza. Le opinioni sono tutte buone, ma, fino a prova contraria. Sei il solito snob. Sergio dalla provincia di Roma. Snob, realista. La tua opinione è che valga di incida di più di quella di Juncker. No, incida non c'entro, ma questo a parte è il punto. Juncker non ho mai, non incide mai detto di Juncker. Più quella di Juncker, credo, Sergio, ma provincia di Roma, banalità, certo. Eccomi, posso? Dimmi, Sergio, dimmi. Ecco, ciao, buonasera Cruciani, buonasera anche a Parenzo. Vai, non ciao, me ne frega caro. Un cazzo le buonasera, dai, su. Mamma senti, mia, buonasera, comunque sono d'accordo con te su questo argomento. Senti, no, però volevo parlare di un'altra cosa. Tu poco fa all'inizio della trasmissione hai introdotto alcune parole lì di padre Fanzaga e via discorrendo. Livio Fanzaga, sì, da qualche giorno ci divertiamo a perculare anche secondo me con ragione il signor Livio Fanzaga, il quale sbrocca su questa vicenda delle coppie di fatto e chiama in causa il diavolo, le malattie, io, la natura, ecco, tutte queste boiate. La natura, posso rispondere un attimo a Fanzaga su questa cosa qua? Caro Fanzaga, la natura è di per sé frocia. Diciamo la verità. Cioè, contempla che esistano, diciamo. Sì, ma è di per sé anche un po' frocia. Cioè, anche un po' frocia. Esiste in natura la frociaggine. Per cui, quando uno invoca la natura, sbaglia in partenza. Dai, Sergio, dimmi. Ecco, beh, anche su questo però ci sarebbe da dire. Volevo soltanto sottolineare questo. Tu parlavi dell'esistenza o meno del diavolo, del demonio, insomma, questa cosa qui. Ma tu hai una prova certa della non esistenza del demonio? Sì, vabbè, ma questo potrebbe essere detto per tante cose, però. Cioè, tu hai una prova provata che Marilyn Monroe non sia ancora viva in una baracca nelle isole Galapagos? No, non ce l'hai la prova provata che non ci sia. Magari c'è. Cioè, questo potrebbe essere detto per qualsiasi cosa. Io capisco che la mia posizione sia una posizione di ateo e dunque, siccome non penso che esista un Dio, non penso nemmeno che esista Satana. Però, francamente, io cerco di attribuire ad ogni avvenimento una spiegazione di tipo razionale. Questo è un mio difetto. Quando uno dice questo è Satana dietro l'informazione, l'informazione ha delle persone, delle teste, delle cose, non c'è Satana dietro. Questo io penso che sia così. Chi pensa che ci sia Satana, secondo me è un deficiente. Il problema, però dipende. Tu credi a Satana? No, assolutamente. Allora, io credo nell'esistenza di Satana. E porto delle prove, un'ampia letteratura biblica. Cioè, tu pensi che Satana esista? Certamente. E sulla base di che cosa, scusa? Di un'ampia letteratura biblica. Di un'ampia soprattutto la vita di alcuni santi. Vabbè, ma tu dimmi una cosa: nella tua vita come si è manifestato Satana? Se si è manifestato, qual è il tuo l'esempio vivente della una cosa che ti è capitata che ti ha fatto dire Satana esiste? Ma probabilmente si sarà manifestato, ma io chiaramente con la forza della mia fede, chiaramente l'hai respinto. No, io non lo posso neanche dire, però sicuramente tutto forse sembra, perché qua è tutto un credere in qualcosa così, cioè per sentito dire, perché lo dice perché credi nella religione cattolica, allora, non lo so. Guarda, io ho un'arma a mio favore che è la fede. Vale qualunque cosa, che ti frega delle prove? Va bene, non ti frega niente delle prove. Se uno crede, basta. Il fratello maggiore, vedi come interviene. Ma è evidente che non si può discutere. Se uno dice che crede, io ho rispetto per altro, dice credo a Satana, benissimo. Non è che ci sono delle prove empiriche, delle cose. Crede, fine, arrivederci. Anche alcuni componenti della Chiesa, purtroppo, sacerdoti che vescovi, mettono in dubbio l'esistenza reale di Satana. E questa è una cosa molto grave. Molto grave. Sergio, grazie. Esatto. Denis, provincia di Forlì. Se non ho capito, secondo te gli omosessuali sono un esempio dell'esistenza di Satana? Come? Gli omosessuali sono un esempio dell'esistenza di Satana? Ma quelli, gli omosessuali comunque sono figli di Dio. Hanno un po' di demonio dentro. Ma questo lo stai dicendo tu, Te lo sto chiedendo. Io ti sto rispondendo e ti sto dicendo che sono figli di Dio. Sono figli di Dio. Poi, loro abbracciano Satana in un altro senso, quella è un'altra cosa. No, ma quello però ti sto chiedendo. Anche quando gli omosessuali sono. Te lo dico come direbbe Lino Benfi, quando si inchiappettano tra di loro, significa che c'è Satana in quel momento che sta dominando, no? No, io ti dico soltanto che a suo tempo Dio punì Sodoma e Gomorra per alcune situazioni. Appunto, poi tutto il seguito, questo lo vediamo sotto gli occhi. Punì Sodoma e Gomorra. Denis, provincia di Forlì. Buonasera. Vai, dimmi, caro. Io volevo dire, ma per questione delle adozioni gay, no? Ma i bambini, li ha chiesto qualcuno se vuole andare a vivere con due ricchioni? Beh, questo è riassume tutta la questione. Cioè tu dici, chi ha chiesto ai bambini se vogliono andare a vivere con i ricchioni, giusto? Ma i bambini non sono mica bambole che devono accontentare omosessuali, ma chi l'ha detto? Infatti. Allora, ma perché un povero creatura devo andare a vivere con due che si inchiappano tutta la notte? Scopano tutta la notte tra di loro. Sì, anche uomo e donna lo fanno, però, amico mio. Ma lo fanno, ho capito che lo fanno, ma un povero bambino, secondo voi, come cresce con due omosessuali? Come cresce? Cioè, tu dici, bambino, quando entra nel letto e vede una scena brutta con due panzoni, magari anche un po' pelosi, no? Che si toccano tra di loro. Sì, ma le vedo tutti i colori, perché io faccio camionista, no? Il pelosi. Ho capito, non è che i gay sono tutti pelosi, però, No, ma non interessa pelosi, ma cosa interessa? Ma come lui col povero bambino, non viene preso in giro dai altri bambini a scuola? Non lo so, può essere. Denis, tu da quale paese provieni? Da albanese sono. Albanese. Ma in Albania come stanno messi, Parenza, a proposito di... Ci sarà anche in Albania lì, sicuramente. È un disastro in tutti i sensi, ma non ne parliamo. Però, ma è pieno di froci pure in Albania come da altre parti oppure no? Come tutti i paesi, come qua, tutti i paesi. Anche là, non è che mancano. E ce l'avete voi? Ce l'avete voi le coppie gay? Alla grande. I matrimoni e le adozioni ce l'avete oppure no? No, mi sa che il matrimonio ce l'abbiamo, non si sposa nessuno. Beh, è probabile che sia così. Ma un'altra cosa volevo dire. Sì. Ma povero Europa, con tutti questi arabi che vengono qua, ma voi siete state anche, cioè, compreso me, ma voi siete rovinati. Rovinati. Rovinati la vita. Adesso, amico mio, che ti devo dire? Intanto magari questi qua ti rubano il lavoro a te. Perché vedo l'immigrato albanese che è contro gli immigrati. Sono quelli più forti, più scalenamente. Io sono leghista solo. Ma infatti molti immigrati sono di destra, cioè quelli regolarizzati. Immigrato albanese leghista. È l'elettorato della Lega, sì, certo. Sì. Leghista. Ma è normale. Da morire. Ti piace Salvini da morire, anche sì, sessualmente non mi stupisce. Anche no, sessualmente io ho la mia moglie, grazie a Dio, guarda, 22 anni, guarda, sono appostissimo, hai capito? Sei etero di ferro, etero. Dai, come tutti, dai, come maggior parte, come te, no, a te non lo so, ti piace anche il trans, cavolo. No, ma io non ho detto ormai è passata cazzo, questa cosa, mio, sai. Io sono eterosessuale, ma non escludo nulla, amico mio, ma escludere qualcosa no, escludo è da stupidi. Nel modo più assoluto, ma perché tu sei bigotto, molto bigotto, escludo nel modo più assoluto, però i bambini, chi li difende con i diritti di quelle povere creature? Chi li difende? Ma chi li difende? Non è che necessariamente se vivono in una famiglia lesbica o frocia, diciamo, o omosessuale, sono rovinati. E poi rovinati, che parla male della Chiesa, ma lei, Cruciale, parla male della Chiesa, ma lei però non è in grado, né culturalmente, né in tutti i sensi, non è in grado di offendere i preti, ci sono sempre anche qualche prete che fa del male, ma... Scusami, perché non parli quelli che sono bravi? Dennis, ma dove sei tu in questo momento? In che zona d'Italia? A Cesena. E dove abiti? Un paesino qua di Cesena. Ah, per cui non stai lavorando adesso? No, sono qua a Ferro con la macchina, stavo andando a casa. Vabbè, ciao Dennis. Ciao. Però non si... Ciao. Ciao. Allora, caro Parenzo, adesso ti racconterò una storia straordinaria che secondo te sarà al limite anche della follia. Probabilmente non sarai d'accordo su molte cose. Io devo valutare. Però vogliamo offrire ai nostri ascoltatori, soprattutto a quelli del Family Day, cioè a quelli che andranno al Family Day, questo spaccato di famiglia italiana. Due ragazzi molto giovani. Ti leggo solo il titolo di un giornale per presentare questa storia. E credo che sia il Tirreno, un articolo che ho letto oggi di Ivana Agostini e che ha questo titolo. Alessia e Davide si sposano. La coppia trans sogna un bambino. Oh. Uno dei genitori paga le spese per la fecondazione assistita. Cioè, credo, forse nemmeno la fecondazione assistita, per l'utero in affitto. Alessia e Davide, la coppia trans che sarà famiglia. Il matrimonio si svolgerà il 6 febbraio a Orbetello, se non sbaglio. La cosa, diciamo, curiosa, che noi consideriamo curiosa, ma che fa parte della vita di queste persone, è che Alessia, che è qui con noi, Alessia è in realtà Alessio, cioè nasce come Alessio. Vabbè. E la sua compagna, diciamo il suo compagno adesso, il suo prossimo, il suo futuro marito, Davide è invece una donna, era una donna, cioè entrambi hanno cambiato sesso e adesso si sposano regolarmente come una coppia eterosessuale, capito? Ah, adesso ho capito, bravo, ci ho messo un po', ho capito, quindi diciamo... Allora, quello Alessia... che era uomo è diventato donna, quella che era donna era diventato uomo e poi in questa nuova loro veste si sono sposati. Bravo, vedo che sei perspicace. E faranno un figlio con l'utero in affitto, da quello che capisco, da l'utero in affitto forse in Ucraina. Ho capito. Alessia? Ciao. Ciao, come stai? Tutto a posto, grazie. Voi? Quanti anni hai innanzitutto? 24 anni. Cioè, Alessia però era Alessio. Era Alessio prima, giusto? Eri Alessio. No, senti, per far chiarezza, nella carta d'identità che c'è scritto? Alessio. Alessio. Alessio, ormai è definitiva questa cosa? No, con la O. Non è definitiva, Alessio. Cioè, è una cosa che comunque io porterò a termine dopo che saremo questo bambino. Io cambierò, farò l'operazione e cambierò i documenti. Ah, ho capito. E come fai a sposarti il 6 febbraio allora? Mi sposo perché comunque per la legge sia io che Davide siamo ancora uomo e donna. Ah, ho capito. Dunque tu ti sposi ancora come Alessio. Sì. Come Alessio. Ma lo dirà, e invece Davide in realtà come Valentina, giusto? Esatto. Come, cioè voi vi sposate ancora con le vostre, diciamo, identità sessuali iniziali. Esatto. Iniziali. Sì. E poi successivamente completate tutto l'iter, giusto? Bravissimo. Oh no, perché sai, è un po' complicato capire. Cioè, è un po', vero? Per molti, molti considerano questa cosa una porcheria assoluta, una cosa vergognosa, che non esiste, eccetera, vabbè, eccetera. Ma io glielo faccio credere, a me non interessa. Io non dormo con loro e non vivo con loro. E tu invece, con le persone che criticano, diciamo. Ah. Sin da piccolo, ti sentivi in un altro corpo, diciamo. Sì. Cioè, io adesso ogni tanto mi confondo. Ti sentivi donna. Giusto? Sì, sono una donna e mi sentivo sempre donna. Ti sentivi sempre donna. E questa operazione cosa comporta per te? Quando la farai? Beh, mi passo l'ultimo traguardo alla felicità completa. Cioè, ti tagli il pene? Sì. Questa è... Lo voglio mettere sotto vuoto, sotto sale, non mi interessa, basta che me lo tagliano. Ma veramente lo vuoi mettere, te lo vuoi conservare? No, tu te lo vuoi conservare? Magari me lo conservo, lo do a Davide. E che ne so, magari. Allora, no, non credo che sia possibile. Un triplo salto carpiato. Non credo, diciamo, che sia possibile trasferirlo, insomma, trasferirlo a Davide. E senti, ma nella tua famiglia come è stata vissuta questa cosa? Effettivamente è un macello. Beh, è un po' un casino, sì. Effettivamente è un po' un casino. Però, ragazzi, la mia famiglia l'hanno presa tutti benissimo, compresa mia nonna che ha 76 anni. E tuo padre? Mio padre no, non abbiamo più rapporti. Beh, appunto, allora non l'hanno presa benissimo. Non è andata proprio alla grande. Vabbè, ma a me di lui non mi interessa perché non c'è mai stato fin da quando ero piccola. Quindi adesso proprio Povia direbbe ecco perché. Povia, il signor Povia, il cantante Povia, beh, direbbe questa è nella canzone Luca era gay, ma qui siamo oltre, vabbè, adesso sta con lei. Tante, se ne dicono tante su Povia che... Senti, cioè, una Povia cosa, direbbe, ma... proprio perché non c'era il padre, che lei ha fatto questa scelta, direbbe vostro, Povia. Chi verrà al vostro matrimonio? Tutti i nostri parenti e amici più stretti. Ah. Avete invitato anche Renzi? No, ma che c'entra Renzi? No, non so, sì, chiedo, anche Renzi. Un evento come questo. Perché non andate? Dunque, vi sposate il 6 febbraio ad Orbetello, giusto? Ah, tu dici che dovrebbe andare al Family Day? Beh sì, dovrebbe andare al Family Day. Potremmo andarci anche noi, mi perché sembra siamo famiglia un po' troppo. Ma è famiglia tradizionale. Cioè, scusami, tradizionale adesso, ma certo, ma scusami, Davide, adesso io sono a favore. Tu hai incontrato, credo, in chat. Lo sai, no? Che non discuto, sì, quasi mai. Hai però incontrato in chat. Adesso fammi confondere ancora. Sono un Davide. Po' Davide, in realtà. Ma chi io ho trovato in chat? No, tu non c'entri, Valentina. Ah, ecco, no, dicevo che hai incontrato in chat Valentina, giusto? Davide, scusami, come la devo chiamare col nome nuovo, diciamo, no? Davide, sì. Allora, sì. Alessia sei tu, che in realtà eri Alessio, esatto. E Davide è il tuo compagno, che era Valentina. Sì. Allora, passiamo Alessia e Davide, così è più semplice. Okay. Allora, hai incontrato Davide in chat e vi siete innamorati, giusto? Sì. Tu sei di dove? Orbetello. E lui invece? Gallarate. Di Gallarate. Da quel momento in poi vivete insieme, dopo quanto? Dopo 2 mesi. Dopo 2 mesi vi siete innamorati pazzi? Sì. E vi volete sposare? Esatto. Amico mio, che vuoi fare? Cioè, non glielo puoi impedire, hanno tutto il diritto, carità, di andare davanti al signor Bagnasco e di andare davanti all'organizzatore del Family Day e dire: noi siamo una famiglia tradizionale. Certo, perché come la girano e la rigirano, sempre uomo e donna siamo. Eh sì, poi voi così glielo mettete in quel po', scusa se lo dico. Andate lì al guarda, ti do una grande idea, dimmi che vai, ti prego, vai, andate. Guarda, andrei. mano nella mano. Che ci volete dire, signori miei? Sì, dal punto di vista tecnico, sì, tecnicamente è così, c'è poco da fare. Ma mica li rifiutano, mica li mandano via. Beh, però poi vai tu a spiegare lì sul palco tutta la storia. Cioè, quella diventa, come dire, curioso, no? No, perché sul palco che non devono spiegare a nessuno. No, magari potrebbero chiedere di parlare. Magari potessero parlare lì. Siamo uomo e donna, cioè, però siamo pure così. Col braccio così. Tiè. No, ma la cosa interessante però è l'utero in affitto. Allora, voi volete La cosa interessante è la nonna di 70 anni, però scusami, perché? Prima dell'utero in affitto. Beh, lei c'ha 24. Beh, la nonna di 70 anni che però risulta, come dire, più avanti, cioè, del padre, diciamo. Che non ha battuto ciglio, come si dice. No, no, guarda, mia nonna mi comprava anche le Barbie, quindi. Cioè, quando eri Alessio. Allora è Correa. Sì, quando era Alessio. È colpevole di questo misfatto, di quella che qualcuno chiamerebbe Barbie, una porcheria. E Bovia direbbe. A me un po' ti fa schifo questa cosa, Parenzo, di la verità. A te un po' fa schifo. No, a me le cose non mi fanno schifo. Diglielo davanti, le scelte personali non mi fanno guarda mai io schifo. Morbo, attento, eh. No, ma a me le scelte personali non mi fanno mai schifo, perché se sono, poi se lei sta bene così, figuriamoci. Mi può fare neanche impressione, mi può stupire. Cioè, ma tu ovviamente, quando sei nata maschio sentivi proprio che il tuo corpo non era quello? Cioè... da sempre, sì, ma fin dall'asilo. E sei mai stata, beh, che c'è 24 anni, sembra che sto parlando con una persona di 40 o 50, sei mai stato con una donna? No. Diciamo fisicamente, dal punto di vista? No. E come fate tra voi, scusa? Oh, per curiosità. Ah, curiosità. Vabbè, esistono tante cose. Ah, con gli oggetti fate, dice. O magari lo facciamo anche tradizionalmente, che non lo sa. Boh, non lo so, appunto. Cioè, per cui tu lo stai usando quello che poi ti toglierai? No. No, non lo usi. Mamma mia, che casino, ragazzi. Comunque, la cosa importante è che vi amate, diciamo la verità. Sì. E volete anche un figlio, però, questo è il punto. Sì. E andate in Ucraina. Chi paga tutto per andare a fare questa cosa il in Ucraina? Il papà di Davide. Ma ragazzi, qui siamo di fronte, c'è la nonna, il padre di Davide. Il padre di Davide paga la trasferta in Ucraina. Che sarebbe il suocero? Sì, per fare, capito che, bene. Per fare suocero, che cosa? Sì. Esattamente in Ucraina. Per affittare una madre gestazionale. Affittare una, ma io non userei la parola stop qua. Non userei la parola, stop. Affittare, però. Io sono molto liberale, cioè lui è contro questa cosa, io sono a favore, lui io è contro. Sono un poco, non sono, sono molto dubbioso sull'utero in affitto. Sì, no, affittare una madre, vedi già il termine. È contro, già come l'ha detta, affittare una madre gestazionale. È una cosa, questo è il termine meccanica, c'è cioè una roba da fabbrica di bambini, che è una cosa non che è un po' una mi impressiona. Di bambini, perché una persona che lo fa e lo fa per aiutare altre famiglie che sono in difficoltà come noi. Credo che in sia peggio che Davide usasse i suoi genitali per procreare. Ma perché questo non lo adottate un bambino con, cioè, tutti cos'è i bambini che sarebbe uno schifo, sono... scusa? Cos'è che per sarebbe? Per me sarebbe una cosa, non è neanche per, io sono molto aperta in mente, non è neanche contro natura e tante persone lo fanno e ben venga per loro, ma secondo me non sarebbe una cosa giusta che Davide usasse i suoi genitali per procreare. Quella sarebbe una cosa che potrebbe far scalpore, ma non due persone ma che Davide amano... non ce l'ha i genitali, amica mia. Che cosa? I genitali, cioè la sua, non la sua, hai capito niente, la cioè, sua ancora lui sotto c'ha la vagina, quindi appunto potrebbe benissimo, cioè potreste fare un figlio normalmente, diciamo, potreste voi due, potreste fare, se avete 24 anni potreste fare un figlio normalmente, certo, cioè, sì, o attraverso o lui che usa i suoi genitali, invece no, perché voi dopo volete cambiare sesso. Ma per lui ma no, è più. Ma quando una persona ha la disforia di genere, è disforica con, no, i suoi, infatti, genitali, non può che manco... non li riconosci, è impossibile usarli, certo, e mettere al mondo un figlio. Un attimo solo, tu sei molto chiara, anche combattiva sulla questione dell'utero in affitto. Torniamo tra un istante. Fermi tutti, è un caso pazzesco, ragazzi, è un caso pazzesco. Due persone che vogliono cambiare sesso si sposano perché si possono sposare e vogliono anche un figlio con l'utero in affitto. Uno dice, avete riassunto tutto quello che per la Chiesa, per il Family Day, è il male assoluto. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. La zanzara. Lorenzo, mi sono innamorato di te. Quando ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti voglio, ti desidero. Non vedo l'ora di conoscerti perché ha degli occhi stupendi. Ciao Lorenzo, ti voglio bene, un bacione, ciao. Chi è sto maniaco qua? Ma perché maniaco? Beh, è uno che dimostra amore nei tuoi confronti, maniaco, affetto. Maniaco, mamma ma mia, come sei dell'affetto di sto salame. Ma sai, guarda che sei incredibile, dai, su. Allora, stiamo raccontando però, ragazzi, una storia incredibile. Alessia di Orbetello e Davide di Gallarate. Che tanto sei è arrivato nei nostri studi un ospite. Sì, dopo lo introduci. Diciamo. Alessia di Orbetello, Davide di Gallarate, che il 6 febbraio si sposano ad Orbetello. La cosa incredibile è che si sposano come... in realtà come uomo e donna al contrario, non riesco a spiegare bene. Alessia di Orbetello e Davide di Gallarate, uno ex uomo ed ex donna, si sposano come coppia normale eterosessuale, dopodiché cambiano sesso e dunque glielo mettono in quel posto al Family Day a tutti quelli che non vorrebbero questa cosa qua. Questa è la mia opinione. In qualche modo è una fregatura per questi qua, perché sono regolari eterosessuali, non possono dire nulla. Abbiamo Alessia qui con noi, che saluto ancora. Poi ciao. C'è l'Ucraina e Kiev, cioè andranno con l'utero a fare l'utero affitto in Ucraina. Quanto costa questa roba, Alessia? 30.000 euro. 30.000, Parenzo, capito? 30.000. Ma no, ma mi rendo conto, ma è un orrore. Per te vanno, è un orrore. Vanno in Ucraina, prendono una donna, danno 30.000 euro a questa signora che dovrà mantenere nel suo grembo per 9 mesi un bambino. Ma la signora mi ha dato 30.000 euro alla clinica. Vabbè, quella, la signora qualche soldo avrà, la clinica poi darà qualche soldo. No, la signora avrà solamente i soldi delle visite che verranno pagate peggio da mi noi, sento. Quindi lei non vedrà nessun soldo. E perché peggio lo fa? Mi sento. Perché lo fa, scusami? Lo fa perché vuole aiutare le famiglie come noi. Ma scusi, ma qual è la donna? Ma lei, ma di cosa? Adesso parliamo di una roba seria. Credo che ma qualche di cosa soldo parliamo? Ma qual è la prenderà donna che vuole fare una gravidanza? Vabbè, ma tenendo non è questo. Ma perché lei la pensa così, ma ci sono anche persone che fanno questo per aiutare altre famiglie. Beh, io credo che qualche soldo lo prenderà. Lei che è nella testa di quell'altra gente, no? No, ma capire? Per carità, nella testa delle persone, per carità di Dio. No, senta, però posso, allora, sulla cosa testa, posso considerare questo abbastanza abominevole? Posso considerarlo un po' abominevole? Posso, ho il diritto. Sì, poi è giusto, lei lo faccia pure, non chiedo l'arresto di nessuno, non mi permetto di far arrestare no, nessuno. Ma mi legherei se mi portassero via mio figlio una volta tornata in Italia. Che faresti? Ma quello non è suo figlio. Non fammelo portare via, farei di tutto. No, perché la procedura è questa. Voi pagherete questi 30.000 euro. Sì. Ascoltare questa telefonata, vieni. Non si può fare subito. Ascolta questa telefonata. Non si può fare subito perché Davide, oggi Valentina, ma in futuro Davide, ha... quanti anni ha? Davide è Davide anche ora. Per la legge Valentina, ma... Per sì, persone, per Davide. Per il rispetto, Davide è lei. Ma no, ma io figuro, io ho grande rispetto, figurati. Allora, per favore, guarda, mi fai il favore di usare pronomi giusti, perché no, tiro giù il telefono e la conversazione chiude. Alessia, mi sembra di aver avuto nei tuoi confronti, nei vostri confronti, il massimo del rispetto. Sì, cioè... però sinceramente ho lottato parecchio. No, ma per carità, però mi può sfuggire la... Non confondermi, no. No, ma non sto facendo... Perché noi non ci conosciamo, non ci siamo vissuti e né frequentati, quindi dovrebbe scattare automatico. No, ma non scatta automatico, nel senso... Anche perché senti una voce femminile, non senti un... No, ma questo sono curioso di chiedertelo. Come è stato possibile questa trasformazione della voce? No, io sono sempre stata così con la voce. Io sono nata in questa maniera. Beh, poi anche le cure... Neanche mi sforzo di parlare così. Le cure magari avranno anche aiutato, no? No. No. Perché le cure non cambiano la voce. No. Vabbè, no. Ma è una domanda che ti faccio, non ti... No, ma infatti io ti rispondo tranquillamente. Comunque, Parenzo pensa che questa cosa che farei di l'Ucraina sia un orrore, io penso posso, ho il diritto allora, di pensare. Allora, un orrore, mi scusi Lorenzo, un orrore è anche Parenzo, di coppie eterosessuali che possono procreare con i propri genitali che si rivolgono a queste cliniche perché magari hanno delle difficoltà, hanno bisogno di un aiuto. Sì, ma no, ma quello... Io ho dei dubbi serissimi sul mutuo in affitto, ma poi per carità... Capito? È un orrore anche questo? Cosa è un orrore? La fecondazione assistita, un orrore è anche quello che le coppie... No, la fecondazione assistita non c'entra niente con... No, lui pensa che affittare come niente. Ha usato lei il termine vado in Ucraina e affitto una donna. È un utero in affitto. È una donna che per 9 mesi terrà un bambino che poi lei si porta a casa, amica mia. Poi va bene tutto, non chiedo l'arresto di nessuno, cazzo. Però dico semplicemente che materialmente qui hai... Io sono d'accordo con questa cosa, per cui... Ma vabbè, ma io sono d'accordo con l'utero in affitto, viene fatto in un sacco di paesi. La signora ragazza, ho 24 anni. Chiamo ragazza, che in realtà è un ragazzo, ma che va benissimo. Io anche su questo non dico niente, ovviamente. Il ragazzo che è diventato ragazza e che adesso sposerà un ragazzo che è diventato ragazza, va in Ucraina, affitta una donna e fa un figlio. Non dico niente, mi permetto di non dire niente. Tutto hashtag benissimo. Dico semplicemente che andare, che usare il termine affitto una donna... Vabbè, ti dà fastidio il termine affitto. Ma lei mi dà fastidio. Che rende l'idea. Che ma rende anche l'idea. La persona che è qui vicino a me non ha capito niente di questo. Cioè dice, ma... Va bene, Alessia ti chiedo una cosa. Allora, 30.000 euro, chi è che li paga? Ripetimelo un po'. Il padre di Davide. C'è un aforisma al volo che è stato fatto così al volo che sintetizza bene questa situazione. Qual è l'aforisma? Poi la voce la riconoscete dopo, però? No, è arrivata, non sono io, buongiorno a tutti. C'è arrivata questa roba che si è scritto: se l'utero è in affitto, il pisello è equo canone. Questa non so. Vabbè, cosa vuoi. Questo non lo so, io sono voci che sai che a questa radio si intromette pannelle, non so chi è, però tra un po'. Com'era ripeti? È un aforisma, non lo so, vediamo se c'è ancora collegato, non lo so. Vediamo. Com'è? Sì? Se l'utero è in affitto, il pisello è equo canone? Questo è punto interrogativo. Non so chi è, una domanda, però oggettivamente è una domanda. Comunque. Senti, che lavoro vuoi fare nella vita tu? Non so chi è, Alessia. Che... Io basta che sia un lavoro dignitoso. Vabbè, ci avrai un sogno nella vita, no? Ma sinceramente no, quello che avevo deciso dire l'ho già esaudito quasi tutti. E Davide? Uguale, basta che siano due lavori dignitosi. E vabbè, avrete un sogno, ci avrete uno, lui quanti anni ha Davide? Beh, il sogno più grande nostro è quello di aprire un agriturismo insieme. Ah, ecco, vedi, vabbè, è già qualcosa. Turismo, e vuole, mi, Quindi comprato, vi non affittato. E vi... Capito Lorenzo? Parenzo, sì. Parenzo. Sì. Almeno quello è affittato. Però dai, è forte. Questa dai. È una bella battuta. Quella è una bella battuta. Senti, ma vi volete fermare a un figlio oppure volete farne altri? Beh, adesso anche tu, però. Anche tu, amico mio. Già uno è già un bel dono, un bambino. Ma basterebbe uno che fosse sano. Che fosse sano. E non è un dono, però, è una cosa che lei magari costruisce, biondo, non no. È un dono. Ma già è biondo, quindi magari. Cioè, magari ce lo vuoi pure biondo. Ma non è diciamo. Un dono, questo non è David, che vuol dire. Hai un già dono. Polemizzato per su questo. Per me è un dono, per lei no, per me è un dono. Ma no, ma nel senso che. Un hai dono già è... polemizzato su questo. Come non... lo vuoi questo figlio? Biondo, con gli occhi azzurri? Ma io voglio parlare un attimo con questo signore. Perché Parenzo, sì. Il signore, per me, se lui vuole tirare le frecciatine, va bene, però non su questi argomenti, perché poi mi incazzo. No, ti devi incazzare se ma tu io vuoi incazzare. Ma scusi, io semplicemente ti puoi sto incazzare tranquillamente no, sull'uso che lei fa di... è l'affitto e il dono. L'hai per già fatta la polemica, dono, dai. Punto e basta. È un dono, è un dono. Lui lei pensa che sia un dono e tu invece pensi che sia, una, che sia uno un dono, proprio. L'hai già detto, adesso devi ma insistere detto su che questo. È uno proprio, è una cosa che indubbiamente fa impressione a me. Sei ripetitivo, sei fastidioso. Vabbè, allora non mi fa impressione. Brava, fastidioso e ripetitivo. Fastidioso e ripetitivo. Benissimo. Davide quanti anni ha? 19. Ma lo può fare sta cosa o no? Può andare in Ucraina o no? Certo, per la legge noi possiamo andare in Ucraina perché siamo una coppia sposata eterosessuale. Per cui dovete finire, diciamo, questa cura? Finire no, questa... no, noi no, interrompere. Non è una appunto. Cura, ma è una terapia. Una terapia. Noi la interrompiamo. Anza come bacchetta. Interrompere... No, bacchettona, sì. No, bravo, giustamente, mi bacchetti, ma va bene, mi faccio frustare no, anche se perché vuoi. C'è tanta confusione, anche con la disforia di genere e l'orientamento sessuale, che sono due cose opposte. Certo. Voi vi sentite una famiglia? Sì. Noi siamo una famiglia. No, vi sentite anche, cioè siete una vera e propria famiglia, volete un figlio, magari anche un altro, due, tre. Come lo vuoi sto magari figlio? Magari anche 10, una scuola di calcio. Figlio, capelli biondi, gli occhi azzurri, ti piacerebbe quegli occhi azzurri? Come viene, viene, basta come che viene, viene sano. Ciao ragazza, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Alessia, Family Day, Family Day sabato. Ci andrò sicuramente, ti, saluto Lorenzo. Ti, Parenza, ridai, Parenzo, ti voglio lì a combattere, siamo una famiglia anche noi e prendetevelo in quel posto perché ci trasformiamo. Io in, lo sono già, io in donna e lui in uomo. Dopo ma l'operazione tutti gli effetti. Dopo scusa, ma è più difficile passare però da donna a uomo, sì. No? Beh, è anche più molto più costoso perché, e più difficile. Perché te devono mettere l'uccello, insomma. Come... Sì, costa 50.000 euro. 50.000? E sì. Chi paga stavolta? Chi paga? Sempre, lo zio, sempre, paga. La non, sempre la nonna, chi paga? Sempre lo zio, là. Qualcuno pagherà alla fine. Ma mi dicono che in realtà quando tu ti taglierai quello che c'hai adesso... Che ti dà anche un po' fastidio, immagino, no? Beh. Ti dà noia o no? Come dice, sì. Scusi, c'è un telegramma che è arrivato adesso. Come dice, un altro aforisma che c'è? No, non lo so, non ho capito. Prego, prego. Se si leva qualcosa, non può darlo all'altro e evitare di... no, non si può, questo passaggio non si può fare, è difficile. Scusi. Per la scienza è impossibile, per anche però lo faresti, lo faresti. Regina, perché siccome è Ligure l'ospite, questo passaggio lo faresti? Di risparmiare, capito? Cioè. Ah, beh, Liguria è famosa anche per i ghetti nel centro di Genova, transessuali. Beh sì, ma anche non so se li frequenta il signore ospite che sì, forse sa, avete... Non si sa mai, magari sì. Le frequenta? No, no, però non ho niente in contrario. Sono tutti buoni di giorno, sono... poi di notte si trasformano. No, no, ma ha ragione, ma io sono favorevole a tutto. E sono quelli che giudicano. Ciao, ciao, ciao, presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Ragazzi, un po' di voci dal mondo della politica, dai, che fra poco alle 20:15 con Parenzo ci sarà un personaggio che forse avete già riconosciuto dalla voce. Faremo un po' di casino sulla politica italiana. La ballata delle acciughe, un grande saggio. Cos'è? La ballata delle acciughe. Che cos'è? È un libro, è un libro. Beh, no, non è un libro, è un'opera. Non ci credo che l'ha letto neanche morto. Buongiorno intanto. Ciao, ciao, Dario Vergassola. Dario Vergassola, saremo insieme stasera, poi alle 21, grande evento. Vabbè, che c'è? Che grande evento di che? Io alle 21 faccio altre cose. Alla Leopolda Romana saremo, alla Galleria Sordi. Mamma mia. Alla Leopolda Romana mi hanno chiamato a me, non so perché. Vi vendete al PD in maniera così vergognosa. No, mi hanno chiamato apposta, ha detto vieni che cazzeggiamo e te li prendi un po' in giro. Io ho detto vengo subito, cioè subito. No, non l'ho detto così, sei matto. No, così mi hai detto. No, ma sì, stai detto, mi fai scoppiare un casino pazzesco. Sì, che se viene anche quello là ti spogli nudo e guardiamo cosa fa. Ma sei matto, sei. Così hai detto. Ma non l'ho mai detto, era così, sì. Sei pazzo te. Hai anche detto che Renzi non oh, hai detto che Renzi non va, non va più col cappello in mano, ma in giuro per l'Europa perché gli serve per tappare il pisello alle statue. Te l'hai detto. Ma non l'ho mai detto, non avessi. Ma cosa è orrendo, è orrendo. Questo personaggio è orrendo. Che, come se non lo sapessi, come se non lo sapessi. Ragazzi, fatemi sentire un attimo cosa ha detto sì. La frase incriminata. La RAI sì. Oggi è quella tra come si chiama? Il conduttore di Ballarò e un signore. Che fai? Che cos'è? Che cos'è questo? Ah, scusa, siamo ancora in onda? Ma sei impazziti, gargarismi in diretta. Ma sei veramente un animale. Cioè, ma che ma è terribile. Cioè, ma avevo male alla gola. Ma che gli hai fatto, Dario? Che gli hai fatto? Non ho capito. Ma non so, fa delle cose orrende, ma poi è mitomane. Cioè, fa finta di fare delle cose. È una cosa orrenda. Allora, Giannini, ci sono dei rapporti incestuosi nella vicenda Boschi e Ansaldi, che è, credo, il presidente della Commissione di Vigilanza RAI, se non sbaglio. Segretario della sì, segretario, componente molto renziano, eccetera, eccetera, vorrebbe cacciare Giannini dalla RAI per questo. Sentiamo. Peccato che però c'è una questione di opportunità politica, non sto dicendo altro. Sì, Mara Carfagna domani. Faccio fatica a capire, cioè. Il fatto, cioè, beh, c'è il fatto un l'abbiamo fatto raccontato, diciamo, delle connessioni, diciamo, di qualche rapporto incestuoso in questa vicenda c'è, ripeto, nessuna legge violata. Adesso ragazzi, che esagerazione, stanno mettendo in croce il povero Giannini per una cosa del genere. Il rapporto incestuoso era, lui ha un'opinione, che ci sia un problema nella vicenda di Banca Etruria, di rapporti tra padre, figlio e governo. Ah, potrà avere un'opinione il conduttore di Ballarò o no? Ha utilizzato un'espressione infelice? No, assolutamente no. C'è un aforisma anche su questo. Aforisma su Ballarò. No, c'è una battuta che Michele Ansaldi, Vigilanza sì. RAI, vuole la testa di Giannini. Ma non fanno prima a mettere insieme al canone anche l'editto bulgaro in bolletta? Cioè, questa è la cosa che chiedono il pubblico. E Giannini, questo. Cosa possiamo dire su Giannini invece? Su Giannini ha definito il caso Boschi e Etruria un rapporto incestuoso e presto che il programma si chiamerà Da Ballarò, si chiamerà Salterà. Questa è la cosa. Questa. Fermi tutti, torniamo tra un attimo con Dario Vergassola. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Allora, qualche pillola, qualche materiale per Dario Vergassola, che è con noi a sì, Roma in studio insieme. La balada delle acciughe, lo ricordiamo. Ma a dire, la balada delle acciughe, perché è riuscito a leggere sì, mezzo libro mio e questa marchetta orrenda. Perché ha la tendenza alla marchetta. Dunque, anche quando sì, la marchetta sì. non è richiesta, cioè, no, come nel tuo caso, perché non è un libro di adesso. No, è anche vecchio. La vero, fa c'è lo stesso. È, la, sì, è una specie di coazione a ripetere, perché Dario. Perché promuovere cioè. Un libro è comunque una cosa culturale. Ma non te l'ha chiesto nemmeno, non te l'ha chiesto. Comunque, voglio qualche pillola per Vergassola, così qualche gli do qualche spunto per no per lui va in Africa lo so. Allora sì. Giulia La Torre sì. figlia del Marò La Torre sì. dice che suo padre non si guardano in faccia da tempo, dice sostanzialmente che è una specie di bestemmiatore, mi starà guardando e mio padre starà bestemmiando, e soprattutto ha detto che è omosessuale. Sentiamo la voce della signora Giulia La Torre. Chi mi attacca è uno stupido, noi siamo normali. Tu sei rimasta molto molto male perché tanta gente ti ha insultato, no? A me non me ne frega proprio niente, perché sono delle persone ignoranti, stupide. E veramente, forse hanno loro dei problemi, non noi. Perché noi siamo persone normali. Che hai da dire su Giulia La Torre? Beh, sono rimasto un attimo perché non sapevo questo retroscena, però ha fatto bene lei a dichiararsi, mi sembra. Insomma, il padre ha altri problemi, mi sembra di capire anche. No, però tu sai che i grandi difensori dei Marò sono quelli che, no, che di destra, che, centrodestra, che con i Froci non hanno grandi rapporti, diciamo. Però in realtà io ho conosciuto tanti militari vivendo a Spezia che in realtà hanno anche figli omosessuali, ma non se ne fanno nessun tipo di problema. Ma c'è questa apparenza un po' ormai mascula. Militare, sai, poi il militare nell'immaginario è rimasto sempre un po' quello di destra, un po' così duro e puro, l'uomo, eccetera. Sì. Però mi sembra di capire che ormai non sia così no, si sia però, sdoganato, sai, a parte tutto. Poi no, questo... però... Ma la torre è quello a casa o quello in India? No, la torre è quello a casa. È quello a casa. Vabbè, quindi diciamo che insomma tutto sommato è presente a questa dichiarazione della figliola. Però può essere che sia un modo per liberatorio. Lui dice che starà bestemmiando. Senti un po', mi starà guardando mio padre e starà bestemmiando. Senti. Pensi che ti starà guardando papà in questo momento? Sì. E cosa penserà in questo momento papà? Non lo so se sta bestemmiando o qualcos'altro. No, vabbè. Bestemmiare è una cosa bruttissima e sicuramente no, vabbè, non lo starà facendo. Modo di dire, no, vedi? Era un modo di dire, però diciamo che lei l'ha fatto perché probabilmente potrebbe essere l'unica cosa liberatoria per il padre. Cioè, ti dice la bestemmia. No, dici. No, liberatoria nel senso che va bene, questa non avete capito. Era troppo sofisticata, liberatoria. No, secondo me, padre, secondo me questo succede. Liberatoria. E che di fronte alla figlia che confessa in televisione di essere lesbica, il padre è militare. Riportatemi in India, dice. Se n'è uscito, se n'è uscito con un porco, diciamo la verità, cioè se n'è uscito con un porco, questa è la ma realtà. Il babbo sarà un po' stressato, anche il babbo. Dai, senti, alla Rai hanno licenziato Azzolini, quello del Capodanno, dell'anticipo del Capodanno. Che dici di questo? Ci abbiamo ma ci bruciamo tutte le nostre cose. Vai, ci bruciamo tutte le cose stasera, però questa non so è per no noi. Ma che bruciate, dai, che bruciate di Azzolini. No, io sono contento, non mi ricordo. Comunque, per Capodanno anticipato la Rai ha licenziato il capostruttura Antonio Azzolini. Sì, pare che gli abbia detto vattene entro 10, 9, 8, 7, 6. Siamo dei cazzari, però è un po' così. Sì, no, non si può dire, Radio Confindustria. Oh. Ah, scusate, però questa è la trasmissione più cazzara. Sai chi è il presidente della Confindustria, no? Il presidente della Confindustria è Squinzi. Bravo. Squinzi. Direttore del Sole 24 Ore? Che noi salutiamo, ringraziamo. Direttore del Sole? È quello che tu hai la sua foto e tiri le freccette. Dice, no, sì. Ma non è vero! Ah, sì, ma sei una cosa pazzo, sei. Ma dici delle cose, cioè, veramente. Ogni volta. Veramente, c'ha la foto di Napoletano e tira le freccette. Ciao, ieri sera a cena parlava solo di Squinzi e di Napoletano. Ma non è vero. Tutta la sera. Male, dici male, delle cose. Male. Sì, male. Dice, perché poi fa, da una parte fa quello, di sinistra, capito? E poi lavorando su Confindustria non sa cosa fare. Quindi c'ha il piede in 30 staff. Come al solito. È un grande classico. Tu lo conosci bene. Sono Andiamo a Igor Catania. Vai, Igor. 800 24 00 24. Tra poco c'è un grande ospite, caro Dario, che ti darà grandi ispirazioni. Il senatore D'Anna, che oltre a essere verdiniano, si è messo a parlare anche, di sesso. E ci sarà un'intervista solo di sesso col senatore D'Anna. Aspetta, intanto Igor Catania, vai Igor. Buonasera a tutti. Dimmi. Io volevo prendere il discorso della transessuale Efeball che ha detto che vorrebbe partecipare al Family Day e che cerca qualcuno tra i volenterosi del popolo che la protegga. Sì. Io penso, voglio fare un pensiero paradossale, nel senso che non penso che lei si deve temere che qualcuno le si scagli contro, ma che anzi forse si vedrà aumentare la lista dei clienti. Ma quello è probabile, molto probabile che succeda questo, anzi molti di quelli che andranno al Family Day, secondo me un pensierino, alcuni ci saranno stati con Efeball sicuramente, perché ma i numeri... Come anche due miei amici, che sono due fratelli di Catania che sono un pochino ingenui, che non sanno cosa sia la politica, le ho mandato la foto di Efeball, anche la foto dove era nuda, e mi hanno detto che hanno fatto degli atti di autoerotismo. E questi, qua sono ferventi cattolici, questi signori? Sì, hanno tutte e tre. Tutte e due? Tutti e tre esattamente, battesimo. Vabbè, quello dico... d'accordo, quello succede anche se non lo scegli, diciamo, no? Vabbè, Igor, sì. Non ho capito bene, secondo te metà di quelli del Family Day in realtà sono quasi, non dico clienti, ma... Sì, sono tutti, qua noi diciamo in Sicilia, con vizietto, chi hanno il vizietto nascosto. Vabbè, ma non adesso non è che tutti hanno il vizietto nascosto, però sicuramente il pensiero magari ce l'hanno. Sergio dalla provincia di Genova, vai, Sergio. Sergio. Pronto? Dimmi, pronto? Dimmi, Sergio, dimmi. Ciao, ciao Cruciani. Senti una cosa, beh, praticamente ormai la mia domanda è una questione di Nana Caprina, dopo che ho sentito di cazzo Alessia e Davide, cioè hanno raggiunto il top, praticamente. A parte che Alessia mi sembra un po' isterica, e tra parentesi io conosco dei transessuali che mi hanno detto che senza pisello non raggiungerebbero l'orgasmo, e so, e quelli che sono fatti tagliare sono tutti... Sono tutti esauriti. Professore qui, chi è questo? Ma non lo so, primario di chi è? Sono tutti esauriti. Ma che volevi dire, Sergio? Che volevi dire? Niente. Allora, no, volevo dire niente. Proprio l'altro giorno, proprio parlando di queste situazioni che ci sono adesso in giro, parlavo con una mia amica lesbica. Dico, cazzo, ma tu che stai con la tua compagna, si vogliono sposare, quando sarà il momento che le fanno sposare, e avere anche loro il loro bel bambino, e quindi utero in affitto, una cosa. C'era un altro mio amico... ucraino, tra parentesi, che conosce bene la situazione, dice: no, guarda, qua ci sono delle associazioni di madri che lo fanno per lucro, quindi diglielo alla tua amica Alessia che si fa andare i soldini. No, ma sicuramente, sicuramente la madre ucraina, cioè quella che si fa ingravidare in Ucraina, prende i soldi. Vabbè, Sergio, prendi 10.000. Allora, ragazzi, abbiamo con noi il senatore D'Anna, che abbiamo avuto pochi giorni fa per parlare di politica e altre cose, il quale ha una sua teoria da spiegarci, molto interessante. Non so perché sono uscito con questa cosa, fra senatore poco ce la spiegherà. Della Repubblica, senatore, perché senatore non può parlare di cose che riguardano tutti. Lo dico per chi ci ascolta. Vincenzo D'Anna, senatore della Repubblica, è un senatore di ala, lo conosciamo bene, verdiniano, nostro amico, io lo ammiro tantissimo perché è uno che dice le cose come stanno, a meno quello ala. Che pensa, senza paura di niente, di nessuno. Cosa sta l'acronimo ala? Perché cosa sta la ala? Alleanza Liberale, non mi ricordo cosa. D'Anna, lo ricordi un attimo, Parenzo, scusi. No, anche a te. Ma ogni volta che sono in collegamento, Parenzo Ala. Chiede la stessa cosa. Chiede sempre, è noioso. Ma è noioso. Anche tu te lo ricordi. È noioso. Alleanza Liberale. Che Alleanza Liberal Popolare, sì. Ed Autonomia. Ed Autonomia, scusami. Vedo, ecco. È no, ala, c'è una non cominciare, non tirare fuori la parte. Allora, Vincenzo, che è successo? Che cos'è questo estradiolo? Sì. L'estradiolo è un ormone che viene prodotto in abbondanza nelle donne. Sì, un ormone. Uno dei germoni che presiedono all'ovulazione. Sì, sì. Allora? Nel momento dell'ovulazione tocca il suo massimo picco. Cioè, allora, l'estradiolo è un ormone femminile, sì. Tu hai scritto, come tale pare ritardi l'eiaculazione. No, c'è uno studio, sì. C'è uno studio, sì. Di alcuni scienziati, senatore, turchi scienziati che hanno messo, senatore, in relazione, sì. L'estradiolo con il ritardo della eiaculazione. Senatore della Repubblica, poiché l'estradiolo è stipato nelle cellule grassose degli adipociti, sì. Della pancia, sì. Ma sempre quando si mangia fate questa trasmissione, hanno dedotto che gli uomini panciuti, e sì. Quindi con un adipe molto, sì. Corposo, sì. Producendo più estradiolo, sì. Hanno dei rapporti più, possono garantire dei rapporti più lunghi e quindi più soddisfacenti. Cioè, la sostanza è questa. Vincenzo D'Anna, facendosi portatore, diciamo, portavoce di questa. No, io l'ho commentata ironicamente perché sono sempre stato grassottello. Ah, tu dici. Come soddisfazione, perché noi non abbiamo il fisico scultore, un portatore, no? Di stradiolo, la gente va in palestra, certo. Ma qualche, chi ha la pancia, qualche requisito in più, guarda caso. Poi allora, allora diciamo una verità, Vincenzo, tu per un motivo anche d'orgoglio, no, essendo stato visto come uno sempre un po' panzone, dunque c'è quest'idea, no, quelli che hanno la pancia in realtà sono sessualmente un po' inibiti, oppure comunque hanno dei problemi, sono inibite dall'ingombro sterico, perché la pancia. Non favorisce l'agilità, no, favorisce i movimenti. Non c'è, cioè, Bergassola per esempio non ha di questi problemi, essendo uno molto magro, giusto? Beh, Dario? Io sono falso magro, sono anche un falso basso, nudo sono 1,80. No, però Dario, scusami, non sei grasso certamente. No, cioè, no, sono abbastanza. Quanto grasso, pesi, però, scusa, quanto pesi? Adesso sarò nel massimo splendore 64 kg. Beh, cioè, scusa, sono Vincenzo, un metro e cinque, di fronte a Bergassola tu quanto pesi, scusami? D'Anna? Vincenzo? Io quando peso, sì. Io sto intorno ai 90 kg. Beh. Il suo pesce pilota posso fare. Te lo mangi, te lo mangi a colazione. Ma Vergassolo è un grande, credo abbia successo con le donne, per la distrutto grande Vergassolo. Intelligenza che ha. Cioè, ti ha detto che sei brutto. Io la ringrazio, ma ha preso per il calciatore probabilmente. Ma senta, Dana, no, voglio fare. Io la seguo, no, non l'ho preso. La ringrazio. Cioè, ti ha detto che sei brutto, ma le donne vanno con te solamente perché sei intelligente e sei simpatico. Sì, diciamo. Questa è la famosa cosa che raccontano tutti, quelle che mi fai ridere. Però posso chiedere una cosa a Dana? Come no? Sì. Visto che è verdiniano. Senta, vanno bene le unioni civili, cioè vanno bene anche tra persone dello stesso sesso, ok, Dana? Cioè, ma con questa storia tra Renzi e Verdini non stanno esagerando? Cioè, non è troppo incivile quell'unione lì? Non stanno esagerando perché hanno, hanno gusti sessualmente ben definiti e credo che siano anche dei gusti molto raffinati. Non cioè, se no, ma non era quello, era l'unione tra di loro. Era l'unione è quasi un'unione incestuosa, secondo questo è il punto. No, invece, secondo lei è un, non è. Cioè, sembra un'unione innaturale, questo, contro giusto? Natura. Contro natura. Contro natura. Ma no, non è vero, non è vero. Non è contro natura. Questo dice no, non è contro natura, perché ho avuto modo di dire l'altra volta che è Renzi che non ha proprio tutte le caratteristiche dell'uomo di sinistra, insomma, come cultura, come mentalità e come provenienza da, politica. Sì, quindi cioè, li state praticamente rivelando cos'è, insomma, è una specie di... Cioè, tra Renzi e Vendola, tra Renzi e Vendola... Ma forse è il PD che non è più quello che c'è in testa Bersani, insomma. Ecco, tra Renzi e Vendola, io dico Vendola addirittura, tra Renzi e Vendola e Renzi e Verdini, il matrimonio, diciamo, meno incestuoso è quello tra, tra Renzi e Verdini. Credo di sì, perché Vendola resta, almeno si dichiara tale, un comunista, uno statalista. Renzi non mi pare che abbia impostato il suo programma di governo. Su però torniamo alla vicenda dei turchi, che è più interessante, la ricerca sui turchi. Dei turchi. Oh, la ricerca è dei turchi, mica sì. È nostra, è dei turchi, dei signori medici turchi o gli scienziati turchi, che sono un popolo, le dice un po'... No, ma io commentavo sul mio post che era sospetta questa cosa, perché i turchi sono un popolo... Popolo di grassottelli, insomma. Ma lei, scusi, senatore della Repubblica, ma perché non si occupa di cose, diciamo, che interessano di più la vita degli italiani? Ma io ho fatto un post sul mio account di Facebook, uguale, che c'entra? Ormai, che vuol dire? Conta meno, conta meno. Biologo, quindi sono anche un biologo, sotto il profilo biologico. Allora, gli uomini con la pancia durano di più, ma questo vale anche per lei? Cioè, anche lei dura di più, senatore? No, io ormai, insomma, sono ai ricordi. Ma che ricordi? Dicono tutti così, amico mio. State in Parlamento circondati sempre da un sacco di belle donne. Ma avete, no, ma dove le vedete? Ma probabilmente alla Camera, al Senato, insomma, se ne salvano una decina. Cioè, le altre sono tutte degli scorfani. Dice meglio lei, le no? Statue, dice. Adesso arriveranno quelle nuove, quelle non elette, no? Ci saranno quelle... No. Vabbè, ragazzi, abbiamo... Non ci saremo più noi. Abbiamo la pubblicità, un attimo solo. Poi torniamo con Vincenzo. Grazie. Danna, perché gli voglio chiedere... Fermo là, non se ne vada, Danna, perché... Che l'estradiolo ci ha arrapato a me, Bergassola e Parenzo. Siamo un po' arrapati dall'estradiolo. Pensavo fosse una brutta parola, estradiolo. E invece bisogna, in realtà è fonte, in realtà, di piacere, secondo la ricostruzione degli scienziati turchi, che sono diventati praticamente il simbolo per il senatore Danna verdiniano, un casino pazzesco, come le due donne di prima. Brucida. La Zanzara. Siete il nulla ammescato con niente, però vi devo ascoltare lo stesso, perché anche io sono il nulla ammescato con niente. Allora, abbiamo con noi praticamente un neo porno senatore, Vincenzo Danna, di Ala Verdiniano, il quale ha spiegato che secondo una ricerca turca, gli uomini corpulenti in realtà durano di più, cioè non hanno l'eiaculazione precoce. Poi senatore anche detto, della Repubblica, ha anche detto che la cosa non lo riguarda perché lui ha abbandonato il campo da tempo. Sbaglio, Danna? Sì. Quanti anni ha, scusi? 64. Che ha 64 e uno smette di trombare? Come è si successo dice? A Vergassola, mi sono messo 10 anni fa che ne ho 58, scusate. Vabbè, ho capito, però capito, non è che uno per forza, Vincenzo, non è che uno a 64 chiude, no? Chiude baracca. No, non chiude, però non è che mi possa porre il problema delle performance. No, nulla, niente. Non se l'è mai posto. Ma io non ho capito, ma questa cosa qui, ma l'eiaculazione precoce, no? Ma che ne sa Danna? Ma Danna è un senatore, viene considerata, deve chiedere il DDL, viene considerata da tutti un problema. Per lei è un problema? No, io ho spiegato a Radio Cusano stamani, sì. Da biologo, non da biologo, certo, da biologo, certo. Che in natura sì. È molto è diffuso questo principio che è a sostegno della conservazione della specie. Cioè? Più il seme è fresco e più viene dato, i leoni per esempio hanno più leonesse, gli scimmioni hanno più scimmionesse. Scimmie femmine. E più il seme si sparge, più è fresco e quindi non è sul c'è, ma mangia la gente sta, ma io a volte ti chiudo la zanzara perché la probabilità di rendere gravida, diciamo, cioè, in realtà l'eiaculazione precoce favorisce è un meccanismo naturale che è diventato poi un problema perché l'uomo nel corso dei secoli ha creato questa sovrastruttura che è il piacere, insomma, che è una sovrastruttura il piacere, cioè è una sovrastruttura, ma non ai fini della procreazione, della conservazione della specie è ininfluente, insomma, il soddisfacimento, cioè la semina deve essere la più ampia possibile. È la più veloce, anche perché spiegavo ai miei interlocutori Piero Angela del Senato hanno una particolarità, hanno una temperatura più bassa della restante parte del corpo, cioè, proprio per mantenere il liquido seminale un poco più fresco. No, mi spieghi questa cosa, cioè il liquido seminale più fresco come è garantito? Fisiologicamente dalla più bassa temperatura dei testicoli. E dunque, a testimonianza del fatto che più fresco il seme, più gli spermatozoi sono vitali e quindi sono in grado di risalire la vagina, l'utero e colpire l'ovocita, cioè l'uovo da fecondare che diventa... Per cui più veloci si va, meglio è. Bravo, perché è una gara che arriva al bersaglio, insomma. Una gara che arriva al bersaglio. Come le freccette. È fantastico. Dal punto di vista biologico, attenzione, non facciamo come ha fatto l'Huffington Post. Che ha fatto l'Huffington Post? Sono un poco, diciamo così, non vorrei offendere. No, offenda, offenda. Aveva un pessimo voto in biologia e uniscienze, perché dicono che io abbia fatto considerazioni pornografiche. Mi sono una spiegazione scientifica, invece. Una spiegazione... Io mi sono limitato a dire quello che sta scritto sui libri di scienza della scuola media, del liceo. Scusi, lei ha fatto figli, signor Danna? Sì, io ho due figli, una femmina e un maschio. E quando li ha fatti com'era l'eiaculazione? Veloce? No, era normale, lo dicevo per anche tirare su di morale quelli che hanno molti giovani che soffrono di questo problema. C'è quasi un aiuto psicologico a chi soffre di eiaculazione. Ma non c'è un video anche da mandare? Vediamo bene le cose. È un senatore questo qui, però bisogna dire che in Senato ci sono molte persone con la pancia che da questa cosa saranno sollevati, cioè non è vero che quelli con la pancia io l'ho fatto per me e per tutti quelli per la compagnia, diciamo. Non vanno in palestra, quindi vengono sempre considerati dei reietti, non dei modelli appetibili. E invece no, qualche pregio ce l'abbiamo anche noi. Cioè, alla fine ritardate, cioè durate molto. Chi la dura la vince. Chi la Verdini la vince, anche Verdini è un po' panzone, diciamo, no? Anche Verdini, ma siete tutti panzoni? Come mai? Uno potrebbe dire magnate, la solita cosa, Vergasso. Non abbiamo più una verde età. Non avete più la verde età. Ma poi non sono più come d'una volta, quelli che dicono mangiano tutti, adesso fanno tutti le diete, le cose. Poi si occupano anche di queste cose di scienze. Come ma è pazzesca questa, la lezione di biologia di Dan è meravigliosa. La lezione di biologia, lei potrebbe fare lezioni di biologia applicate al sesso, Dan, quasi, non dico ogni giorno, ma potrebbe esercitarsi. Per esempio, un altro problema, oltre all'eiaculazione precoce... Guardi, io sono un biologo, direttore di laboratorio, estradiolo, lodoso per le donne gravide. Per le donne. So di che cosa sto parlando. No, certo, ci mancherebbe, certo. Alla vulgata che in Parlamento ci siano una massa di ignoranti. No, per carità, per esempio sulla sodomia non ha niente da dire lei? Beh, è una pratica molto antica. Sì. L'amore greco, esatto, è stato poi messo al bando dal costume cristiano, diciamo così. Appunto, però oggi siamo oggi. Nel 2016. Però mi consente di dirle che è ininfluente sotto il profilo del mantenimento fisiologico della specie, perché non produce procreazione. Sì, per cui dice se il mondo gay si espande, il mondo è finito, cioè il pianeta. I bambini li dobbiamo fabbricare. sottolineare che sono probabilmente le surrettizie intenzioni di quelli che lavorano per l'utero in affitto. Vabbè, l'utero in affitto è può essere una soluzione, diciamo. Però ma lei non dice... è una soluzione, perché vede, è una predazione, è il più malvagio degli sfruttamenti dell'uomo. Però, scusi Danna, cioè, lei dice se la sodomia si diffonde, il pianeta è finito. A meno che non li facciamo artificialmente i bambini. E vabbè, alla fine arriveremo a un mondo artificiale, che ce frega, basta che allora, non, certamente non è un problema né mio né appunto suo. Ma che ce frega a noi, basta che se tromba un po'. Si dice a Napoli, noi siamo all'antica, ci piacciono le donne. Lei è all'antica. Certo, per esempio, lei i transessuali all'antica. Come li giudica i transessuali? Dei transessuali? Come sono? Devo dire la verità. Mi dica la verità. Non esprimo un like, non mi permette di esprimere però, giudizi morali. Però, che vive come più gli pare e piace. Però, sinceramente, è una condizione che mi imbarazza, perché non sai mai con chi hai a che fare. Poi alla fine chi va con i transessuali, più che proporsi, insomma, finisce col subire. Cioè, più che tu dici, uno che va con i transessuali lo va per prenderlo in quel posto. Vabbè, che male c'è? Che male c'è, per modo di dire. Ho capito, ma che è una... dipende. Ma è Alessandro, Giulio Cesare lo prendevano e sono stati quelli che ma basta stati. Parlare di politica, no? Mi sembra. Cioè, no? Grazie, senatore, a presto. Grazie a lei, mi saluti Vergasso. Salve, Danna, salve. Anche Parenzo, che sì, vedo grazie. In tono molto dimesso, la qualcosa mi preoccupa. No, ma non è dimesso. Non è dimesso, è che sono stupiti entrambi, sia Vergassola che Parenzo. Sono basiti dal fatto che uno come lei parli di queste cose qui. Io invece no, lo trovo una cosa estremamente normale. No, ma poi informato, dico, molto cioè, informato, molto certo, informato. La storia, quelli che lo prendono in culo, quelli che non lo prendono. Ecco, è fondamentale. Buongiorno, senatore Danna, arrivederci. Buonasera, arrivederci. Senatore. Oh ragazzi, siamo veramente al top assoluto. Dove andiamo qua? Andiamo alla Leopolda adesso. Paolo da Milano, abbiamo ancora qualche minuto. Paolo da Milano, dai. Ma Paolo, voglio dire, dimmi. Ci scandalizziamo per che cosa? Ma io non mi sto, nessuno di noi si sta scandalizzando, non si preoccupi, siamo veramente gente di mondo, persone di mondo. Ragazzi, il futuro non lo possiamo mica fermare, ormai vale tutto, uomini, donne, maschi, femmine, utero in affitto, ma che è? Ho capito, poi, io è il mondo che a me è un mondo che piace, questo è un mondo molto vario che piace. Ma, per esempio, Bergasso, ma poi... è mai andato con un trans? Io dico la verità, no, e non ho mai sentito questa pulsazione, però non ci vedrei niente di male, lo dico, ho avuto a Spezia, c'erano i primi locali, sarebbe piaciuto molto a Parenzo, soprattutto a Cruciani, anche siccome c'erano i militari di leva, c'erano qualche migliaio di ragazzi, erano aperti i primi locali e diciamo gay, erano a Spezia, uno ci si chiamava Perigina e c'erano questi qua che venivano a cantare. Si stava vistando e erano molto apprezzati e come dire, non era niente di all'inizio sembrava una cosa molto così fantasiosa, però è sempre stato accettato tutto molto bene. Ma fammi una battuta su Family Day, dai, dopo devo mandare una cosa pazzesca. Barisoni ha fatto un'intervista per noi, Parenzo. Cioè, Barisoni ha fatto un'intervista per la Zanzara. Il vice ha fatto un'intervista per noi. No, ha intervistato Ansaldi, quello della Rai, sulla vicenda Giannini. Dimmi. Abbiamo già detto tutto perché stiamo vedendo le cose, però cosa succede? Mi devi dire una cosa su cosa? Su Family Day, una battuta su Family Day. Non ho ancora capito cos'è sto Family Day, pensa come siamo messi. No, è la festa, cioè la festa, la manifestazione delle famiglie, quelle tradizionali, quelle uomo, donna, donna, uomo con bambini, capito? Questa è. Cioè, è come quando hanno fatto quella contro i gender, più o meno. Sì. Non c'avete un cazzo da dire, dai. Barisoni ha intervistato Ansaldi su Boschi e lui praticamente Ansaldi fa l'avvocato della famiglia Boschi. Ricostruiamo Giannini, conduttore di Ballarò, ha detto che il rapporto Banca Etruria eccetera, è un rapporto incestuoso. Sentite. Ma non capisco cosa c'entra l'editto bulgaro. Partiamo da un fatto: la calunnia è un reato ed è un brutto reato ed è un reato penale, e la calunnia a mezzo stampa è un reato ancora più grave. Allora, questa cosa sappiamo tutti che non è vera, e se la famiglia Boschi dovesse decidere di sporgere querela, lei come sa sarebbe un brutto pasticcio. Io mi auguro che non succeda, perché la cosa è totalmente infondata e non è al momento probabile. Quindi adesso è una calunnia. Io... Ma mi scusi, ma non sarebbe, non dovrebbe lasciare alla famiglia Boschi il giudizio e decideranno loro se fare querela oppure no? Cioè è strano che un deputato della Repubblica, del partito da cui proviene anche il ministro Boschi, il governo, la maggioranza di governo, con il ruolo che lei esercita in Rai, si erga difensore della famiglia Boschi. Se la famiglia Boschi vede gli estremi per la querela, querelerà. Pienamente d'accordo, però mi permetta di ricordare come nasce la cosa. La cosa nasce che io ricevo una telefonata da un giornalista che mi dice: che ne pensa del licenziamento di Azzolini? Mm-hmm. Io dico: mi sembra un provvedimento esagerato. Quindi diciamo sono contro i licenziamenti, dico che sono contro i licenziamenti, mi sembra un provvedimento esagerato, soprattutto con quello che succede in Rai. Io conosco e stimo Giannini, sono sicuro che è un errore, però perché non si dice che è un errore e si tranquillizza tutti che non accadrà mai più? Invece si sono chiusi a riccio, si sono inventati un licenziamento che non è mai stato, non c'è mai stato, anzi le dico, io faccio la campagna perché secondo me non deve essere licenziato nessuno. Sentirete ovviamente tutto all'intervista, non so in quale trasmissione, probabilmente domani, giornale radio, eccetera, eccetera. Davide, ci sei ancora? Dario? Sì, ciao. Sì, sì, ciao, però ciao, possiamo dire comunque che Renzi ha dichiarato: non facciamo favori agli amici, ma si limita ai parenti stretti. Questo possiamo dire. Sì, ma qui si può dire tutto. Basta, ciao. Ciao, Francesco da Siena, vai, dimmi, Francesco, dimmi. Vai, andatevene a fanculo voi due, vai. Bergassolo e Parenzo, mi avete rotto i coglioni, via. Francesco, dai, dimmi. Sì, sì, ciao, senti, mi dispiace di intervenire a fine trasmissione, perché però volevo entrare sul discorso dei cinghiali, perché non sopporto persone che affrontano il problema in maniera idealistica e sentimentale, allora... come Dascia Maraini. Cioè, allora, il problema è qua, è che i cinghiali sono in un numero enorme. Hanno introdotto i lupi per combattere i cinghiali, sì, il risultato, sì, abbiamo due branche di lupi di 20 esemplari. Certo, non ha senso questa cosa, ma me la spieghi meglio domani, guarda, perché anche i lupi che vogliono introdurre sono pericolosi pure loro, ma diventa una follia, bisogna usare il fucile. A domani. Radio 24, la passione si sente.